Cruciani, professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ho trovato una soluzione. Io intanto querelo sto cretino, ok? E tolgo la querela solo dopo che lui ha accettato di venire per 9 minuti divisi in 3 round su un ring con me per 3 riprese. Quando tu vai sul ring c'hai 2 sacchi, uno per darli e uno per prenderli, Gottardo, fai meno il pagliaccio. Lascia stare la cosa del ring. C'è la fila di gente che ti prenderebbe a schiaffi per le puttanate che dici. La fila. Ho fatto 15 anni di nera. E sti cazzi, Gottardo. Cruciani sono 35 anni che se fa le nere non rompe cazzo a nessuno. E state parlando di sesso? Buonasera, Cruciani. Buonasera, Parenzo. Mi sentite? Il mattone nel cassetto è spistificare Tarento. Ma si accomodi. Wow, Tarento, che è successo? Ma sarà meglio la figa o no? Avrà preso la sifilide, no, fa delle porcherie sorella, con le vagine degli altri e io non voglio, non ho sorelle. Scusa, io non ho sorelle. Scusami, ci sono le maiale, ci sono le vacche, ci sono le cagne. Cioè, sono 3 categorie dello spirito, alla fine. Senza troppi giri di parole, ci tenevo a dire che qui urge assolutamente un approfondimento sulla teoria gottardiana, secondo cui le donne si dividono in 3 categorie, troia, cagna, vacca. Il signor Gottardo, già consultato, mi ha detto che io non gliela do, non lo saprò mai. Però è un problema, cioè potrei non dormirci stanotte. Va spiegata nell'ultima puntata del 2020, avanti tutte. Il titolo della trasposizione cinematografica della zanzara potrebbe essere Lo sporco, lo zoppo e lo scappellato. Ultima puntata dell'anno, ragazzi, siamo qui in collegamento da Roma. David Parenzo! Buonasera, buonasera, buonasera. Conte sulla riapertura delle scuole dal 7 gennaio, didattica in presenza almeno al 50%. Questo è l'impegno del capo del governo che ha auspicato soluzioni flessibili sugli orari di ingresso in classe. David Parenzo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma vaffanculo! Pensavo che esultassi per l'ultima puntata. È l'unica, l'unico secondo della trasmissione in cui si prova a dare una notizia. L'unico piccola rubrica che mi sono ricavato all'interno di 2 ore. Ma di, pensavo di che esultassi di parolacce. Pensavo che esultassi per l'ultima puntata dell'anno. Io, questo stava a sentire, questo non occorre neanche dirlo. È un giorno di giubilo, cari amici. Si chiude tutto, si chiude la Claire, si ritorna l'11 di gennaio. Il 7. No, diamo notizie false. L'11 gennaio. Il 7. Ma così guadagniamo 2 giorni. L'11 gennaio, voi collegatevi l'11 gennaio. Ma perché? Perché così? Notizie false. Da Padova, con un assembramento in corso, mi dicono, circondato da mascherine, piccolo assembramento, Alberto Gottardo, applauso. 2 ragazzi e 3 ragazze che potrebbero essere tutte e 3 mie figlie, ma insomma potrei anche dimenticarmene. Facciamo fare un applauso, applaudite. Senti l'assembramento da Padova, polizia? Gente che la polizia, gente che scopa, gente che vive. Pronto? Gente Questura? Che ha paura di questo virus del cazzo. Bravo, Questura, avanti, Radio Caffè, c'è un signore circondato da altre persone. Davide, sono davanti qualcuno? Alla Questura, sono in Riviera Tito Livio 52. Mandate qualcuno a fare una verifica, grazie. Radio Caffè, una radio di Marchette, grazie. Chiamate. Ragazzi, ho sentito stamattina un virologo in televisione che diceva che quando il Novax sta male non deve andare in ospedale. Non deve, perché naturalmente sarebbe un cazzo. Le opinioni, ovvio che non accadrà, opinioni devono essere respinte, tu dici. Le opinioni fuori dall'ospedale. Vergogna, vergogna, vergogna per quello che dici. Lo dico alla Capezzone, vergogna, vergogna, vergogna. Primo. Questo signore si chiama Raffaele Bruno, dice quando il Novax, sentite. No, guardi, io rispetto le idee di tutti, rispetto anche l'idea dei Novax. L'importante è però che ci sia coerenza, cioè quando il Novax sta male non deve venire in ospedale, perché in quel modo sta rubando invece il posto a uno magari che ha portato la mascherina, sì, e si è comportato in modo adeguato. Ma che cazzo c'entra? Ma cosa c'entra? Tu dici un negazionista come quello in Germania sta male e se toglie il posto a uno che se l'è sempre messa, è sempre stato ligio, non è negazionista, non deve andare in ospedale. Eh sì, anche perché ha infettato tutti, si è fatto i fatti suoi e poi utilizza il sistema nazionale, il sistema sanitario nazionale. Siete dei fascisti, siete dei fascisti, siete degli intolleranti. La sua libertà di opinione incide sulla mia salute. Ma chi se ne frega di quello che pensa? No, incide sulla mia salute. Ma che ne sai che ha infettato? Che ne sai che ha infettato? Ma comportamenti pericolosi. Tutte le tasse che uno paga, deve esserci il posto per lo stronzo e anche per quello. Ma tu ce l'avrai sempre, tranquillo. Tu infatti ce l'avrai sempre. Stai certo, con tutte le tasse che pago. Ha ragione, signor Gottardo. Gottardo, stai attento stasera, che stasera ci sono delle sorprese per te incredibili. C'è gente avvelenata con te per quello che hai detto nei giorni scorsi, eccetera. Avvelenata che chiamerà nell'ultima puntata dell'anno. Intanto, sempre questo signore, questo virologo, non so chi cazzo sia, questo Raffaele Bru, dice: i matti, quelli che parlano di Big Pharma, dovrebbero essere curati, non inseguiti. Questo è un po' parenziano, diciamo. Sì, ma non sono di assoluto buon senso, però mi pare, non è che dica cose strane. È ovvio che poi ci sono tutte queste dietrologie, Big Pharma e tutti i complottisti, ma insomma non si possono inseguire i matti. I matti devono essere curati, non inseguiti. I matti vanno, cioè chi parla vanno di Big curati. Pharma, chi parla di interessi di multinazionali, sì, chi parla di interessi che avrebbero Stalin magari dettato i tempi del vaccino. Da che esiste il mondo esistono gli interessi delle multinazionali? Sì. Da che esiste il mondo? Adesso sì, questo quasi. No, io rifiuto questa cosa qua. Questa è una vergogna. No, ma certo che le multinazionali. Bisogna rieducare queste persone. Non è rieducare, ma li porti in un gulag e li rieduchi. È chiaro che è una provocazione quella del bravissimo professore. Ma intanto lo ha detto. Ma è una provocazione, detto, però è evidente che se tu sei un negazionista del virus, sì, negazionista complottista del virus, e sostieni, sì, addirittura che le multinazionali hanno prodotto loro il virus, sì, ma questa è un'altra cosa, che c'entra? No, potremmo andare potremmo andare a spaccargli le vetrine dei negozi, se no, uno ma perché gli spacchiamo le vetrine dei negozi, dire, no? Ma che vuol dire questo? Ma non è questo il tema. Non siamo di in un Davide, regime come la stella di Davide, a quelli ma che non si vaccinano in... dai, ma quella, forza. Quella è la vergogna già. Che vuoi tu. Il diritto che prevede che la salute pubblica sia una tutela nazionale. Libertà. Se tu passi col rosso e mi vieni addosso, non è libertà. Libertà di espressione. Ma la libertà di espressione non è passare con il rosso. Come no, ma non c'entra libertà di espressione. C'entra che se uno ha se tu mi infetti, non è libertà di espressione. Ma nessuno dice libertà, la galera. Libertà, io dico libertà. Sanzioni, però. Se tu passi col rosso e mi vieni addosso, tutto le gule. Ma scusa, se passi chi con non rosso, fa, chi non fa il vaccino, secondo te dovrebbe avere sanzioni? Dovrebbe ma avere certo, sanzioni? Ma delle certo, ragazzi, io sono allibito. Ormai ma di fronte certo, è un problema di salute pubblica. Questo fascismo del vaccino di fronte a una mortalità bassissima. Io voglio sapere. Per me questo, io qua voglio questo sapere, è fascismo sanitario. Io voglio certo sapere se la persona che ho davanti, se è un mio diritto, è vaccinata oppure no. Lo voglio sapere. Ma quello non incide. Cioè, secondo te io entro in questa azienda e devo sapere, che ne so, da marzo, sì, da aprile, sì, se sì, sarebbe la corretto regista qui, la signora Roberta, sì, oppure sì, Longoni è vaccinato o no. Ma tu sei completamente fuori di testa. Perché questo mi mette in un'altra condizione lavorativa, sicuramente sì. Ma vai a fare il culo. Esatto. Io mi libererò anche questa le cosa, aziende, mi farò incatenare. E mette tu anche di non le fare aziende, il vaccino obbligatorio. Ma ti spiego perché. la differenza fondamentale che c'è tra questo e le stronzate di paragoni col nazismo che fate, no, ma non sto perché è una stronzata di paragone, è che beh, mentre se mi obbligano, se mi obbligano a fare un vaccino, è un problema di salute, la cui mortalità è bassissima. Tua figlia, dai, per andare a scuola deve mostrare un certificato vaccinale. Ma è un altro tipo vaccinale. Di vaccino, dai, Davide, sono no, vaccini diversi, su. Che vuol dire un altro tipo? Ma sono vaccini diversi, come non paragonare, un altro? Ma a mio figlio le hanno fatti 5 insieme, 5 vaccini intanto nello stesso giorno. Ma sono vaccini diversi da quelli del COVID. Perché diversi? Era il meno Davide, tuo figlio ha tagliato un pezzo di cazzo quando sì, aveva questo, quello l'ho fatto fare io con grande orgoglio e felicità. Posso dirti che questo qua è molto grave, è invece una delle cose più belle che ho fatto in vita posso mia, perché è un grande atto. Posso dirti che tu hai tagliato un pezzo di pisello ai tuoi bambini, vergogna. Come l'hanno fatto a me, certo, ne sono orgoglioso. Il tuo papà ti vuole talmente bene che ti ha fatto tagliare un pezzo di cazzo. Certo, a 8 giorni, certo. E lo farà lui ai suoi figli. Ma potrà decidere lui quando farlo? Vedrai che lo farà. Potrà decidere mai lui da, quando è maggiorenne. Chissà come mai da millenni nella mia famiglia si è sempre fatto. Chissà come mai. Pazienza. Vuole fare il vaccino obbligatorio con la stella, con il marchio. No, non è vaccinato. Il marchio non è vaccinato. Esiste già. E taglia il pisello. 8 mesi. Esiste già. Ma che paragone del cazzo è? Che vuol dire? Non vuol dire niente. È letteralmente del cazzo. Ma non vuol dire niente. L'ingegner Negri. Nel tuo caso, no. Nel tuo caso, no. L'ingegner Negri, senti. Cioè loro sono diventati dei covidioti. Cioè chi? Talmente ad alto livello, che praticamente loro non sentono più niente. Cioè loro, quando qualcuno fa presente, guarda che la norma non è così, no. Questo è un criminale. L'ingegner Negri è tornato a combattere. Gli italiani si sono bevuti il cervello. Comunque posso dire una cosa, che questa qua è orgogliosamente una delle poche trasmissioni, non dico filo negazionista perché non è assolutamente filo negazionista, questo è il rischio, così ti riconoscono. No, però è una trasmissione che ospita tutti i pareri, quello di Parenzo, quello mio, quello di Gottardo, ma che è già più estremo, però non è pareri, opinioni, libertà, non è delirio. Giuseppe, ci processeranno a Norimberga, questa è la verità, ci processeranno a Norimberga, sì, con un tribunale capitanato da Galli, Parenzo, che ne so, che Burioni. Ci sarà anche Burioni, la Capua. Le idee non vengono mai processate, vengono processati se passi con rosso ti metto la multa e ti tolgo la patente, fine. Gli italiani si sono bevuti il cervello e così noi andremo a fondo, cerchiamo di salvare il nostro paese. Siamo in pochi, siamo rimasti in pochi. Ma chi? Però possiamo guidare il cambiamento. Ci vuole la spallata. La popolazione sta andando verso la distruzione totale. L'ingegner Negri. Ragazzi, comunque voi non vi immaginate una cosa. Io faccio l'appello, fatevi il vaccino. Io sono qua, io vorrei fare adesso il vaccino. Vorrei essere tra i primi a vaccinarmi. Solo che non sono tra le categorie, come dire, che ne hanno bisogno. Ma faccio un appello, voglio vaccinarmi. Anzi, voglio che sia Feltri a vaccinarmi. Guarda che cosa arrivo no, a dire. Feltri non è capace, voglio che sia Vittorio Feltri a farti Feltri la Galli non materialmente, no, magari la fare, nello stesso giorno, ma figure, se neanche fare i giornali, se fare le siringhe, si vuole. Voglio nello stesso giorno voglio vaccinarmi. Faccio un appello al governo, un appello al Ministero della Salute, cioè, un appello vuoi alle in diretta, voglio live, qui, live. Sì, voglio datemi una dose. Funziona, su, voglio dai. Vaccinarmi. Scusi, voglio il vaccino. Ma ha detto che lei non funzionava il vaccino, sarebbe stata la distruzione di tutti i format. Naturalmente. Sta arrivando il vaccino, è un grande lutto questo. È una naturalmente una sciagura quello che sta avvenendo in questa Pfizer, naturalmente. La Pfizer, una multinazionale. Bisogna organizzare un grande boicottaggio, un grande attentato. L'unica cosa possibile esattamente sarebbe quella di bloccare questi camion, naturalmente. Distruggere questi camion che arrivano, naturalmente, in diretta, naturalmente. Sì. Cioè, fare un attentato alle fiale, distruggere le fiale, no? Potrebbe essere una grande idea, distruggere le fiale di vaccino. Naturalmente, si aprirebbe una fase nuova in questo modo, naturalmente. Beh, ho capito che c'entra la fase nuova. Come raccontare la fase nuova? Come raccontare? Naturalmente ci sarà un problema di ascolto, naturalmente, mentre noi col professor Savona stiamo ragionando, naturalmente, sulla possibilità di fare una grande diretta il 27, il giorno in cui dovrebbero arrivare questi maledetti camion, naturalmente, sì, delle multinazionali. Organizzare una sorta di attacco concentrico, naturalmente, con un'esplosione molto televisiva delle fiale, naturalmente, mettere sotto scacco il sistema. Questo genererebbe Savona, però, in un professor Savona, naturalmente, sovranista, sempre sta ragionando sistema, anche lui. Naturalmente contro il sistema, dai. Professor Savona, grandissimo professor Savona, dai. Basta cazzate, è ora di finirla. Se noi andiamo anche oltre le regole, nel senso che abbiamo delle scappatoie e non le vogliamo seguire, veramente la popolazione sta andando verso la distruzione totale. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Abbiamo un sogno nel cuore, schiavizzare Parenzone. Oh, oh, oh. Ehi, caro Parenzo, che sei tutto tu, qui a Londra, dove siamo in Tier 4, tu che capisci l'inglese, sì. Quindi zona rossissima, i negozi sono aperti, non tutti, e il 26 sono aperti i ristoranti, quindi praticamente qui la tanto amata Londra, zona rossa, è meno di una zona gialla in Italia, vai a cagare Parenzo! Vi annuncio che questa sera potrebbe esserci nella serata finale del 2020, piace, ragazzi, nel 2020 potrebbe esserci il grande ritorno del professor Meluzzi, il grandissimo ritorno dopo mesi del professor Meluzzi, una ottima notizia. Soprattutto bella perché c'è una notiziola da commentare, molto interessante, molto interessante. La Chiesa cattolica, incredibilmente, pensavo la Chiesa ortodossa, ha accettato la Chiesa ha accettato che dentro i vaccini ci siano pezzi di feti abortiti, cellule di feti abortiti. Dico solo questo, è una comunicazione ufficiale del Vaticano, della Chiesa. Bene. Cioè dentro i vaccini ci sono queste cose qui e la Chiesa ha detto sì, lo accettiamo. Cioè che è una roba incredibile se ci pensi, no? Beh, cioè, una grande svolta. Rinnegare se stessi. Ma cioè, dove l'hai letto? Nel settimanale diretto da Alessandro Meluzzi? Vai a leggere Vaticano feti abortiti, fai Google ogni tanto, guarda qualche cosa. E questo cosa significa? Vai, senti Meluzzone. Delle cellule di... Significa accettare l'aborto. Con un papa che predica l'obbedienza ad ogni forma di autorità o pseudo-autorità di polizia sanitaria, con un presidente del Consiglio che ci relega dentro le nostre case, dentro i nostri poveri tuguri oramai per tutto il tempo del Natale, con i consumi mortificati, con la ristorazione distrutta, col turismo annientato, dove pensiamo di andare? Che cosa sta accadendo? Bisogna mettere sotto controllo l'umanità, creare un mondo tecnologico diabolico luciferino. Questo. Ma tu pensi a ste stronzate? Signor Meluzzi, ma tu cosa pensi di ste stronzate, sinceramente? L'interesse convergente su cui tutti convergono è il fatto di mettere l'umanità sotto controllo. Le ragioni per cui diversi soggetti debbano mettere l'umanità sotto controllo sono svariate. Madonna, qualcuno dovrà vendere i microchip per metterli sotto la pelle di tutti, qualcuno dovrà vaccinare tutti, qualcuno dovrà distruggere ogni principio di sovranità nazionale alla luce di un diabolico governo globale, insomma ci sono tanti, questi interessi convergono per creare invece un ecumene tecnologico ipercontrollato governato da un'elite planetaria in cui si entra per cooptazione. Chiaro, questo disegno è un disegno luciferino da molti punti di vista, come ovvio. un disegno luciferino. Ma queste stronzate le ha dette dal Roof Garden di Roma? Sì, da un Roof Garden. Il Pope, sì. Il Pope, che è uno dei posti più esclusivi di Roma. Era da cioè un il Roof Pope, Garden, sì, era il da Pope sta al Roof Garden a dire stronzate sul mondialismo. E tu dici pure che ha ragione, stai al delirio pure te. Non dico che ha ragione. Dici che sono stronzate, no, cioè anche tu pensi come me. C'è qualche cosa di esagerazione, qualche naturalmente. Qualche cosa. Abbi coraggio di dire che sono delle stronzate. Fermi, Sgarbi, per questo governo ci vuole la forca. Un'azione sistematica di obbligo al non lavoro nel momento di massima produttività delle aziende turistiche italiane, con la prima industria che è il turismo. La sistematica e consapevole violazione dell'articolo 1 della Costituzione. La scelta e la minaccia di multare i cittadini che contravvengono in nome della libertà a regole assurde che tribunali hanno già annullato ritenendo illegittimi i DPCM. Attendo soltanto la forca per questo governo. Poi dice che vuole andare a sciare ad Asiago. Non so perché, vuole andare a sciare ad Asiago. Ad Asiago. Ottima località. Vuole andare là a sciare, senti. Se c'è una cosa che mi manca, mi sembra giusto che mi manchi, ma qualcuno penserà che sono trasgressivo, è andare a sciare ad Asiago. Non ha mai sciato in vita sua. Non fa bene alla salute. Ma non ha mai sciato. Mi fa pensare che se qualcuno ne è convinto, deve aver perso la testa. Forse molti l'hanno persa, però essere in balia di un governo che mi impedisce di andare a sciare da solo ad Asiago mi fa venire una gran voglia di farlo. E poi pensate pure che mi voglio ribellare, però questo governo di idioti non mi piace. Verrò ad Asiago. Cercherò di camminare nella neve anche da solo. La roba, ragazzi, incredibile. Non ha mai sciato in vita sua. Ma stava parlando con qualcuno. No, lui. Stava parlando con qualcuno di Asiago, sicuramente. Sicuro, qualche ristoratore, qualcuno. Qualche proprietario di albergo, qualcuno del genere, dai. Dai, per forza, dai. Forza, dai. Allora, qualche tocco della professoressa De Mari. Diamo la notizia del giorno, però. No, vera. Ma qual è la notizia? Non ci sono. Apple farà le macchine. Ma elettriche. Questo. Ma è una notizia giù, bomba. Giù il microfono. Ma questo, ha capito quali sono le notizie di, è una notizia rivoluzionaria di questa trasmissione o no? Sì, e io sì. Provo ma lo sai tanto, o no? Lo sai provo quali ogni sono? Tanto ad inserire lo sai qualche sono, notizia no? Vera ogni tanto. Cristian da Milano. Christian. Poi troverai Parenzo a moderare un incontro Apple il mese prossimo. E molto volentieri. Una risposta. Molto volentieri. Ma la notizia è Non è l'Andrangheta però l'avete letta. È una notizia che cambia il mondo. Ma chi se ne frega, Cristian da Milano, fammi sentire. Chi se ne fotte? Cambia il mondo, cambia. Giù, ma vaffanculo, Cristian da Milano, dai. Ascolta, ciao. Dimmi, Cristian, dimmi. Io sono d'accordissimo col virologo che dice che i Novax devono stare fuori dagli ospedali. Ma non diciamo cazzate, buffone. Ma non c'è dubbio. Questo è un altro cretino. No, sei tu il buffone. Perché tu dici... Questo è un altro fascistello. Ascolta. Io non sono fascistello. Sì, lo dimostri. Te lo dimostro. Metti bene sto telefono, togli via voce, auricolari e cazzi, su, dai Cristian, che mi sono rotto i coglioni. Ma scusa, imporre l'obbligo scolastico è da fascista. Questo stava con l'auricolare, sti imbecille. Ma imporre l'obbligo scolastico, come c'è da fascisti? Imporre il vaccino alla gente, dai. Ci sono tanti obblighi che la democrazia impone. Non ho auricolare. E adesso? Ascolta, tu dici che il ladro che entra in casa di notte... Sì. Corre il rischio di prendersi una pallottola in testa. Beh, e io sì, sono certo. D'accordissimo con te. Sì, cosa c'entra è il rischio del mestiere. Scegli di fare il ladro, sì. Corri quel rischio. E tu, caro Cruciani, scegli di non vaccinarti. E devi stare fuori. Guarda che perché io se la ho malattia, cure, la cosiddetta, ho fatto un incidente, tu te ne devi andare fuori dai coglioni. La cosiddetta malattia coronavirus non è come quelle per cui si vaccina obbligatoriamente, sono cose molto diverse. Anche perché? Un cretino lo capisce. Ma chi te l'ha detto? Ma come chi te l'ha una detto? Pandemia, ma certo, il vaiolo sarà diverso al coronavirus, no? Sarà diverso al coronavirus. I medici ci dicono di vaccinarsi, che differenza c'è? Ma dal vaiolo? I medici dicono anche le peggio cose, cioè dicono anche. Ma scusa, l'obbligo scolastico non è mica da fascisti. Perché non lo rendono obbligatorio allora, secondo te? Purtroppo ci sono persone come una parte dell'opinione pubblica come te che alimentando stronzate. Dunque, Cristian, sante parole di Parenzo. È così, purtroppo. Ma lo vorrebbero Da Roma, Leonardo da Roma. Cruciani, buonasera, in diretta. Le truppe sono allo stremo, non ce la facciamo più. Cioè, in che vuol dire? Quali truppe di che cosa? Escort, non si trova una zoccola, ragazze, non ce ne sono in giro. No, Leonardo. Siamo allo stremo. Leonardo, siamo allo... Non è vero, basta. Ragazze, non ce ne sono in giro. Siamo in diretta da Viale Parioli, qui non si trova nulla. Ho capito, ragazzi. Ma intanto Viale Parioli... 800 euro, dai, ti pare normale? Leonardo. Si nascondono quando vedono te perché sei un puttaniere e quindi vai solo con le puttane. Leonardo, ma qua noi siamo sempre andati onorevolmente a ragazze normali, ma non si trova figa in giro. Leonardo, è evidente che i momenti di ritrovo non ci sono più e dunque c'è più difficoltà. Avrai una tua agenda, avrai la possibilità, se vuoi pagare, di prendere l'internet, di chiamare una a casa e vengono lo stesso nonostante il Covid, per cui non dire cazzate, non ci saranno più quelle per strada. Ma posso dubito. Porre il tema, però il tema della qual figa è? Qualcuno ne parla questo Covid? Ne purtroppo parla tutto, purtroppo ne, parla, direi ne parliamo che ogni giorno. Ne parliamo sovrastimato ogni giorno. Il tema, direi. No, non è sovrastimato per niente. Direi. C'è un problema di spostamenti. È l'unico tema, direi. C'è un tema di testosterone qui. Sì, non c'è dubbio, ne parlano moltissimo gli urologi, ne parlano moltissimo i sessuologi, dicono che c'è un tema effettivamente di sesso in questo periodo, perché le restrizioni, la paura. Io fossi in te non avrei nessuna paura, incontro una, me la scopo, non è che chiedo se si è fatta il Covid o no. Parenzo, per esempio, dovesse incontrare una, fosse single, incontrasse una in questo momento, non se la scoperebbe. Giusto, Parenzo? Una a casa non te la scoperesti. Non mi sono mai posto il problema. Se tu fossi single in questo momento. No, ma non mi sono mai posto. Mettiamo che tu sia single. Ma non mi sono mai posto il problema in questi termini. Cioè non no, non ma è, se tu sei single in questo momento, incontri una, rischio o no? Rischio o no? Ma che cosa vuol dire rischio? Ma te mi farei il tampone, no? Glielo farei fare anch'io, ovviamente. Ma magari il tampone, no, già ti siamo, cioè, già da ti solo, siamo sciato il pisello. No, dai, la risposta è sbagliata. Se sono da solo e non ho, non avendo figli e nessuno ed essendo single, probabilmente non avrei problemi. Se ho genitori anziani o quant'altro, cioè, magari come tutti, genitori anziani come tutti. Fermo, so, fermo, magari tu te fermo, ne freghi dei genitori e fai quello che ti pare, puoi farlo, La Zanzara. Giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024, oppure se volete mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Volevo dire a quel ciccione palla di lardo ammasso di adipe che risponde al nome di Alberto Gottardo: allora, io faccio uso di marijuana da tantissimi anni, ne fumo 4-5 al giorno e non mi è mai, dico mai, passato per la testa di provare altre droghe. Quindi di cosa cazzo parli? Di cosa stracazzo stai parlando? Occupati di fare le marchette, che è l'unica cosa che ti riesce bene, brutto imbecille. Ciao Crux, ciao Covid Parenzo e vaffanculo a Giovanardi da Padova. Il paradosso dei paradossi è il coglione ciccione Giovanardi da Padova che si lamenta del DPCM Natale dicendo dov'è finita la mia libertà e poi ci scassa la minchia se uno si fuma un cannone. Ma vaffanculo, Gottardo! Parenzo, non mollare un cazzo, continua ad andare avanti così, a testa bassa, caso, a testa bassa, perché Giovanardi da Padova e Cruciani non ci hanno capito un cazzo della pandemia, un cazzo. Vai Parenzo. Dai Gottardo, che parli di figa come un quindicenne, si vede che non hai mai vista una, non sai neanche se è orizzontale o verticale. Oh, comunque io voglio bene a Gottardo come se fosse tipo mio fratello, però con quel fisico, onestamente, 3 riprese sul ring non le puoi durare neanche se ti alleni, Gottardo, è impossibile, quindi fagli il culo, ma faglielo in tribunale. Mamma mia, che serata, ragazzi! Che serata, che serata, che serata, che serata. Allora, quindi, nell'ordine abbiamo sentito: uno si fa 4-5 canne al giorno. Perché e sarà dice mai? Che è normale. Beh, come che sarà mai? Ma che sarà mai? Ma neanche i Rasta in Giamaica si fanno 4-5 canne. Niente di grave, nulla di grave. Niente di grave. Nulla di grave, come nulla di grave. Poi che abbiamo sentito: 5 canne. È un rilassante, dai. Sì, è un rilassante. Ti saresti laureato se non avessi iniziato a drogarti? Ma io. Matteo. Ma guarda che di canne me ne sono fatte sempre poche. Faresti l'avvocato adesso, come ma io, i tuoi avi. Ma invece non ho voluto farlo. Non ho voluto farlo. Fare la non ho, invece Cruciani. Non ho voluto farlo. Ho fatto conto? Il giornalista, un altro mestiere. Ma voglio dire, non è che le cannette ti devastano il cervello. Ma le cannette non devastano assolutamente niente. Attenzione ragazzi, io ne ho fumate poche. Attenzione, interrompo questa vostra augusta conversazione in tema di canne già fatta miliardi di volte con le due opinioni diverse. Cottardo dice che devastano il cervello, Parenzo dice giustamente che spesso sono un rilassante, un punto rilassante e basta. Una cannetta, allora, dai, con amici, la signora chitarra, Martani testa e scrive, la signora Daniela Martani, stasera ho incontrato Andrea Romano del PD, gli ho detto siete maledetti, state rovinando il paese e vergognatevi. Mi si è fatto sotto come una furia, voleva chiamare i carabinieri, quando mi sono allontanata mi ha inseguito, strattonato e minacciato. Sei fortunata che non sei un uomo. Ma così figurati. Un tempi politici, vabbè, poi la sua considerazione c'è, però ha fatto benissimo a chiamare la polizia. E questa che filma tutto diffama attraverso Cruciani un parlamentare del PD. Esatto. Perché diffama, non ha filmato esatto, tutto? Non lo so, questa esatto. Scritto, perché non c'era nessuno che filmava? No, non l'ha scritto a me, l'ha scritto sui social, per cui che cazzo vuoi? Vabbè, cioè, ancora peggio. Ancora una diffamazione bella e buona. Ma perché diffamazione? Ha raccontato un episodio. Diffamazione bella e buona, perché l'onorevole Andrea Romano avrà chiamato la polizia e ha fatto benissimo. Ma dice che è stata strattonata. Ma è stata strattonata. Che è una persona civilissima. Fermi tutti però ragazzi, grande ritorno, mi sembra che ci sia qui Fabrizio da Milano. Porca, buonasera. Ma sì, che cazzo vuole sto Gottardo, sto pupazzo gnappo di merda. Io combatto, non voglio che la gente finisca come te. Non voglio che la gente finisca come te. Ma guarda che sei peggio te, che sei un ciccione di merda. Ah beh, guarda, un ciccione di merda per dalle foto per che ho visto fattore. Su Instagram sei più grasso. Cosa tu fa Natale, questo analfabeta? Cosa fa a Natale? Cosa fa a Natale lui? Scusami un attimo, Fabrizio, la tesi di Gottardo è che chi parte dalla marijuana molto probabilmente finisce con l'eroina. Anzi, ma no, chi si fa l'eroina spesso. È sicuramente passato dalla marijuana. Sempre dalla marijuana, sempre. Io dico la stessa cosa. Secondo te, se uno scemo come se fosse Gottardo dicesse la stessa cosa, che chi passa dalla marijuana passa la cocaina, ma che cazzo vuol dire? No, con la cocaina c'è un nesso ma molto più labile. Ma tu però sei un grassone di ascoltami, merda. Giù, ma stasera non è controllabile, secondo me è un po' alterato. Come si può non si è capito? È un po' alterato. Tommy da Milano. Tommy da Milano. Questi cretini qua? Ma era chiamato lui. Perché devi chiamare un tossicomane? Perché devi chiamare uno che il suo problema? Non è che un tossicomane è il suo problema. Dimmi. Un altro de buono. Dimmi. Buonasera. Quello che fai film porno con la moglie, no? Quello che fai film porno con la moglie? Tommy, buonasera, dimmi. Sì, ma che male c'è a fare film ma porno con la moglie? No, campionario. Certo. Almeno però difendere il figlio minorenne da questo schifo si potrebbe farlo, eh? Oh, buonasera. Ancora. Ma non allora, sei Gottardo. Tommy, Gottardo, risponditi tu per favore, dai. Hai parlato tanto, hai una bella voce, anche piacevole, hai il verbo, no? Sai parlare. Però adesso non ti puoi tirare indietro, visto che tu sfidi le altre persone e le vuoi sul ring, sì. Allora vediamoci sul ring e ci conosciamo. Ma perché? Allora, fermi tutti. Allora ricapitoliamo la situazione. Tommy la canaglia è un autotrasportatore, diciamo così, un autista, sì. Il quale fa anche del porno insieme alla moglie che si chiama Lady Muffin, la signora. E già qua siamo già punto e basta. Normalità. I rapporti tra loro e il figlio sono cazzi loro. Sono cazzi loro. Dunque tu non devi mettere bocca nei rapporti tra loro e il figlio di 11 anni, 12 anni, quanti ne ha? Chiaro? Un ragazzino di 12 anni che sente il padre che racconta in radio che si scopa la madre di fronte alle telecamere. Ma quello lo saprà, sta a casa, sa che qualche problema psicologico potrebbe averlo. Gottardo, fammi parlare un minuto. Guarda, parli sempre tu, la gente ti ascolta. Adesso ascolta un attimo me. Allora, io non ti seguo, non ti conosco e non ti voglio conoscere. Non so la tua situazione familiare. Tu però, non conoscendomi di persona, ti sei permesso di parlare di mia moglie e di mio figlio. Fammi parlare, scusa un attimo. Tuo figlio, quando sei stato intervistato a Radio 24, tuo figlio dov'è? Fallo parlare. Dov'è tuo figlio? Queste palle che hai per radio le devi avere anche sul ring con me. Certo hai capito? Che le ho, certo che le ho. Hai capito? Non ci vengo a sorridere con te, mi fa schifo toccarti. Visto che tu ti fa schifo, hai i guantoni, mi ti fa do schifo i guantoni toccarti, mi e fa. Anche la vasellina per la faccia. Visto che tu scrivi le altre persone che toccano la tua famiglia, tua moglie e i tuoi figli. Sì, visto che tu tutto hai okay. toccato me okay, e mia moglie e mio figlio, vieni adesso con me sul ring. Quando tuo figlio e dove vuoi tu? Rispondi a questa domanda. Dove vuoi tu? Io non offendo nessuno facendoti una domanda. La domanda è tuo figlio ci dove cazzo era? Tuo figlio dov'era? Ma che te ne frega te? Ma che te ne frega te? Rispondi coniglio. Fermo, fermi tutti. Allora, rispondi allora, coniglio. Io posso dire una cosa. Allora, a che cosa interessa a Gottardo il rapporto che c'è tra Tommy la canaglia, Slady Muffin, che sono due attori porno, e il figlio? Se qualcuno deve intervenire, eventualmente, ma proprio dico eventualmente, come succede in tutti i casi, sono i servizi sociali. Cosa te ne frega a te? E non intervengono perché non c'è nulla, evidentemente. Cosa te ne frega a te del fatto che il figlio sappia delle performance sessuali di Tommy la canaglia, sì, e di Slady Muffin? La dimmelo. La domanda che io faccio anche a Giuseppe Cruciani è: dove era il figlio dodicenne di questi due quando venivano intervistati su Sodomia, Pompini, Cunilingus? Era qui ad ascoltare, dov'era? Perché conosce le cose, perché loro ti pare una roba normale? Ti sembra una cazzo di cosa normale questa? Tommy, rispondi tu, dai, Tommy, rispondi tu. Anche ti prego. Questo non è sbagliato. Tommy, rispondi. C'è nulla di offensivo, non c'è nulla di offensivo nel sottolineare che quel frangente sei stato un padre che io non vorrei avere. Va bene? Sì. Io non vorrei avere il mio padre. Tu che padre sei? Tu che padre sei che sei separato? Che padre io pensi cerco, di essere? Io cerco di essere un padre amorevole. Io non ho mai scopato. Io non ho mai scopato la madre dei miei figli davanti a una telecamera. Dimostrami che sei meglio di me. Giusto. Io te lo dimostro subito. Te lo dimostro subito. Tommy, non in tribunale, ma sul ring. Visto che hai le palle di affrontare e minacciare gli altri. Scusa. Hai capito? No, io non minaccio nessuno. Siete tutti meglio di me perché non fate porno. Allora, fermo un attimo. Scusa, il porno però con ring non c'entrano niente. Su una cosa ha ragione Tommy. Lui ha minacciato un altro perché hanno toccato la sfidato, sua L'ha sfidato. Sfidami. Però è vero, tu hai toccato la sua famiglia dicendo che non è un bravo padre. Che non è un bravo padre, l'hai detto. Che non è un bravo padre. Mi inserisco tra i due soggetti. Il tempo delle chiacchiere. Secondo me siete entrambi guantoni e cerca un ring. Questo è giusto, questo è giusto. Sgarbi, secondo me, Sgarbi se dice, no, Sgarbi siete dice giustamente, spostati. No, Sgarbi entrambi due spostati. No, lascia perdere. Lascia perdere. Sgarbi mi scrive giustamente: Vittorio, la canaglia vera è Gottardo. Ha ragione la canaglia, ma è normale che sia così, perché che cazzo te ne frega a te del rapporto tra Tommy la canaglia, Lady Muffin e il figlio? Perché devi giudicare Tommy la canaglia un cattivo padre? Sì, dico lo che stai mi giudicando. Fa schifo l'idea. No, hai detto che non è un buon padre. Tu sei un giornalista. Scopa davanti alla telecamera. Esprimi un pensiero e la tua opinione. No, che giornalista. Hai capito? Va bene, lui, allora, ti dico, lui è giornalista come tu, sei dottore, allora, sono stato ma non è giornalista. Non è importante, essere, dai. L'idea di essere nello stesso albo di David Parenzi mi ha spinto poi a ragione, ripeto, Sgarbi ha sentenziato, e Sgarbi ha sempre, Sgarbi ha ragione la canaglia. Oh, perché? Adoro Sgarbi. No, perché Tommy la canaglia educa il figlio come cazzo vuoi, che ne sai che non è un che ne sai di essere un padre più decente di Tommy la canaglia? Tu che sei per la libertà, posso pensare che sia riprovevole far ascoltare la madre che racconta dei bocchini che fa davanti alla telecamera? Ma siete entrambi due esibizionisti. Io non ho mai scopato davanti alla telecamera. No, ma ci mancherebbe altro. Gottardo, ascoltami. Dimmi la canaglia. Io sono quello che in questo mondo di perbenisti come te, come tanti altri, ci ho messo sempre la faccia e non solo, come dico io. Non voglio la medaglia, voglio ti te sul ring. Ma metterai un po' di esibizionista, però questo non voglio è un crimine. Voglio te però. Sul ring. Voglio te sul ring. Ma perché io non ho mai offeso tua moglie? Tre round da tre minuti. La differenza, scusami, povero imbecille che non capisci un cazzo. Io non ti sto la differenza insultando. Tra te, allora, fammi vedere, spiegamelo sul ring. Spiegamelo sul ring. Scusami, abbi pazienza. Io non è brutta l'idea. Non ti sto insultando. Io non ho mai insultato tua moglie. No, non ho neanche mai guardato un video porno vostro, perché mi fa schifo solo l'idea. Ma quello non mi interessa. Okay. Io sono stato un signore, quindi... che quando tu mi hai insultato la famiglia, io ti ho semplicemente bloccato da Instagram. Ma non ti ho insultato la famiglia. Cosa ti ha detto? Scusa, cosa ti ha detto Tommy su Instagram? Lui cosa era in diretta con tutte le persone che seguono la Zanzara. Con adesso un ragazzo che ho provato pena. Ho provato pena per tuo figlio. Che cosa ha detto? Ci vorrebbe la registrazione. No, aspetta. Tu hai detto, te lo dico io, te lo ripeto io, guarda, tu hai detto. Ci vorrebbero gli assistenti. Aspetta, gli assistenti sociali dovrebbero dovrebbero portargli via il figlio. Allora esatto, io ti dico, io non ho mai toccato la tua famiglia. Se ravvisano dei problemi psicologici. Non ho mai toccato la tua famiglia. Qualcuno ha toccato la tua famiglia e tu hai detto, vediamoci sul ring. Tre round da tre minuti. Io ti chiedo un round dai minuti che vuoi tu. Un round da un minuto. Ti faccio un esempio. Dammi un round da un minuto. Vieni con me, un round sentilo, da un sentilo, minuto. Sentilo, dammi un round da un minuto. Scusami un attimo. Scusami, Gottardo. Hai detto che bisogna portargli via il figlio. No, mi ricordo benissimo che l'hai detto. Non fare adesso il coniglio, dai. No. Ma sì, me lo ricordo benissimo. Non l'ho detto adesso. L'ho detto durante la diretta Instagram. Allora, ascoltami. Ti ho lasciato stare per mesi. Qualcuno, non so che cosa è successo, ha nominato. Tua moglie hai chiamato. Ascolta, io non ho bisogno di essere protagonista. Ho bisogno solo di te. Due guantoni e un ring. Ho solo bisogno di te. Due guantoni e un ring. Qualcuno ti dà quel palcoscenico manco per il cazzo. Qualcuno ha toccato la tua famiglia. Tu sei cerca di pubblicità. Ma che pubblicità? Ma quando mai? Perché i tuoi video non li vede nessuno. Non è un problema. Sono la terza copia. No, ma non voglio parlare di porno, non è la sede adesso. Allora, ascoltami, io a mio figlio insegno ad affrontare i problemi, ok? Non evitarli. Ha un padre come te. Tu ricorda ai tuoi figli che non stai affrontando Tommy a Caglia. Io non mi metto, io sono bravo mi fai a parlare talmente della mia tutti. Famiglia, ciao Tommy. Della mia famiglia. Ciao Tommy. Comunque il giro è pieno di Colored senza mascherina e io mi sto rompendo il cazzo. Fino all'anno scorso rinchiudevate i vecchietti, le mamme, i zii, i nonni dentro ospizi. Quest'anno fate a gara per andare a rompere cazzo dentro le feste, andare a fare i cenoni con tutti quanti e fate a gara per andare a infrangere la legge. Ve la meritate la dittatura sanitaria, ve la meritate. Purtroppo durerà poco perché verso aprile, maggio, giugno tornerete a essere aggressivi e stronzi in mezzo alla società. E invece gente come me è costretta a godersi questa vostra ora essere rinchiusi dentro casa per altri par di mesi. E me la godo la dittatura sanitaria perché ve meritate da rimanere a casa. Merde, ipocrite, maleducate, che non siete altri. Mamma mia, Crociani, tu sei un pazzo criminale. Tu, cioè? In quest'anno di pandemia, fra c'hai sulla coscienza... Ma tante di quelle infezioni, tanti di quei morti che non hai nemmeno idea. E perché, scusa? Mamma mia, pazzo. Crociani criminale. Mentre riceviamo con soddisfazione, naturalmente, la notizia del rientro in Italia di Chico Forti. Un caso incredibile che, come sapete, stava trattato molto dalle Iene e tornare in Italia per finire di scontare la sua pena, chissà come finirà questa storia. C'è un elemento molto importante, certo, caro David, che è questo: tu sei tra coloro che vorrebbero portarmi alle sbarre. Dove? Cioè vorresti che io fossi processato per crimini contro l'umanità, sostanzialmente. Per diffusione del virus, io penso per che contagio tu, o altre io penso cose che tu abbia delle responsabilità enormi, enormi in questo paese, perché da 10 anni a questa parte, attraverso questo microfono, nell'ora di massimo ascolto, diffondi notizie false, fai parlare dei ciarlatani. Dei ciarlatani, nella migliore delle ipotesi, qui il più grande intellettuale che qui ha parlato è il divino Telma. Pensa un po', che il più poco, grande intellettuale. Che fra poco dirà la sua. No, io fra poco dirà no, la no, sua. Cosa dici? Fra poco dirà la sua sull'anno chiedigli a venire. Come si esce dalla pandemia? Fagli sentire le profezie che ha fatto l'anno scorso. Fagliele sentire le profezie che ha fatto l'anno scorso. Perché fagliele sentire, perché sarebbe da andare a cercare a casa quello lì, eh? Sarebbe da andargli sotto casa e dire: vabbè, scusami, nessuno mago. Non poteva prevedere il 2020 quello che è successo. Ma che come? D'accordo? Non chiamarlo lui, mago, poi chiamalo divino. Non lo chiamare mago. Il maghetto. Comunque hai delle responsabilità enormi, questo è fuori di dubbio. Angelo da Napoli, avanti tutto, Angelo. Qui, carissimo, mi hai fatto troppo ridere. No, ma no, Angelo, ti sento da lontano, dunque Massimo da Torino, vai. Vai, Massimo da Torino. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, volevo intervenire sulla questione dei vaccini, sull'obbligatorietà di cui avete lungamente parlato. Sì, e sulla che quale, secondo me, purtroppo, il problema semplicemente non esiste. Cioè, non esiste il problema dell'obbligatorietà. In quanto, almeno dal mio punto di vista, il rischio a carico dello Stato degli eventuali risarcimenti e della pioggia di cause che potrebbero ricadere Massimo, scusami un attimo. Questa, vorrei farti notare che codesta emissione radiofonica non è come si chiamava quella trasmissione bellissima una volta su Rai 2 condotta da quello pelato eccetera, Luciano Onder. Beh, come si chiamava? Medico, ma che c'è? Sì, medicina 33. Questa trasmissione non è medicina 33. Dunque non si parla. Però è una bella riflessione. Sì, ma che non sta si facendo. Parla di risarcimenti, cose, vaccini. No, ma io non ce ne frega un cazzo. Chiaro? Che non ce ne frega un cazzo. E allora di cosa vuoi parlare? Io voglio dirti questo. Che cosa? Perché ascoltavo prima il vostro dibattito e non c'è dibattito qui, non può esistere dibattito in questa trasmissione. No. Okay, sì, Parenzo, spiegaglielo tu, ti prego. L'obbligatorietà del vaccino. Non e troppo. Io su questo volevo dire che non potrà mai esserci. No, ma sti cazzi, ma sti grandissimi cazzi, è capitato male. Lei dimostra che ogni tanto un ascoltatore intelligente telefona e purtroppo però non è il suo, lo so, però purtroppo questo non è il suo luogo. Cioè lei sta lei è come se si presentasse nel peggior bar di Caracas vestito di tutto punto e dicesse: barman, di grazia, potrei avere un whisky? Quello le rutta in faccia. Quindi lei ha sbagliato luogo, ma io sono con lei, sono anch'io nel posto sbagliato. Ma questo è un cretino, ha chiamato e ci vuole parlare di obbligatorietà del vaccino. Giusto, argomenti giusti, ha posto questioni in modo civile. Purtroppo non è il suo posto questo, ma glielo dico con rammarico, perché in realtà lei dovrebbe stare qui e noi dovremmo essere licenziati da questa struttura. L'abominio è questo qua, è che una persona civile come lei, ma no, me lo faccia dire, altrimenti vado a fare in culo pure lei. La cosa incredibile di tutto questo è che lei ora è nel posto sbagliato, ma lei dovrebbe stare qui. Questo è il paradosso pazzesco, capito? Se mi date l'indirizzo vi raggiungo. No, ma saremo noi che dovremo andare via e chiudere per sempre. Questo è il suo posto. Ma non però è il suo posto. Nel momento in cui viviamo, ma se tutti fossero Massimo Dottorino ci romperemmo i coglioni. Ma non è tutti vero, avremo delle riflessioni, capiremo qualcosa in più, ragioneremo. A me sembrava di dare un contributo non c'è nessun contributo, porca la gran carognoso. No, ma quello non è carognoso, no. Ecco l'altra schifosa. Cioè, ha capito, lei è nel giusto, ma è nel posto sbagliato. Questo è il problema. Ciao, Massimo. Giusto al posto sbagliato. Ciao. Allora ragazzi, io voglio sempre ricordare, mi avete già scritto in tanti, che io questo cazzo di trono, questo trono qua per sedermi invece di queste sedie così scomode, lo voglio assolutamente. Me lo realizzano due signori, due gemelli, gemelli.milano. No, non c'è nessuna marchetta. Lo realizzano a gratis, ma lo faccio per sedermi, che marchetta è? Dunque mandatemi anche, per forza, non mandatevi solo via mail, anche su WhatsApp 393 71 71 701, i vostri disegni su come vorreste questo trono. Per esempio, la faccia di Gottardo ci deve essere oppure no? Sì, dove ti siedi, questo però è il punto. Dove ti può darsi, tipo come se fosse un cesso, no? Come se fosse un cesso. Esatto. Va bene, dove andiamo? Dove eravamo? Michele da Roma, dai, Michele. Buonasera, Giuseppe. Senti, io vorrei attaccare Parenzo. Non è una cosa nuova anche questa. Sai che novità. Non è una cosa nuova, sicuramente. E vorrei capire come cosa cazzo gli dice il cervello, porca la gran puttana, per dire che il vaccino deve essere obbligatorio. Che vuoi fare? Cioè, siamo così. Dunque, l'argomento è molto semplice. Tre parole. Parenzo, se tu ti vaccini, il Covid non ti può prendere. Perché importa se io mi vaccino oppure no? Vabbè, che c'è, questo se lo facessero tutti. Come si chiama questo qui? Come si chiama questo? Michele, si chiama Michele da Roma. Non voglio argomentare a lungo, glielo dico in quattro parole. Lei è un cretino. Vabbè, se lei non ha capito, se lei non ha capito perché è importante il vaccino, se lei non l'ha capito, perché poi siamo tutti per la ripresa dei ristoranti, poi se non vi vaccinate non venite a dire ma l'economia, io sono per l'economia, quindi obbligo di vaccinazione e si riprende tutti la vita di prima. Ma fine. Perché vuoi obbligare chi non vuole vaccinarsi? Perché vuoi obbligare chi passa col rosso ad essere multato? Ma non c'entra un cazzo, ma non c'entra un cazzo. Ne va della salute pubblica e della ripresa di un intero paese. No, che devi dire ancora? Che devi dire? Aspetta, fermati. Che devi dire ancora, Michele? Volevo dire, io ho una cosa che devo raccontare. Quest'estate, tornando da una vacanza, stavo con due amici, mi sono fermato a un autogrill. Sì. E mi è venuto che dovevo cagare. Di conseguenza sono andato al bagno dell'autogrill. Vabbè, mi sono seduto e tutto a posto. No, seduto mai sedersi, il bagno dell'autogrill è tremendo. Infatti anche loro mi hanno detto, si sono scandalizzati per questa cosa, che io mi sono seduto. A me è una cosa normalissima. Beh, sedersi così a pelle, senza neanche mettere la carta, ma che matto, sul bagno dell'autogrill, l'ho spostato. Vabbè, tanto mica dovevo. Ti siedi a pelle sulla, così, dove magari hanno pisciato prima 40 persone, peggio di me, lei è un selvaggio, posso dirglielo, lei è un selvaggio, io non voglio avere niente a che fare con gente così. Perché non voglio avere niente a che fare, ma cosa c'entra adesso? Posso, ma uno che si siede sul cesso dell'autogrill, che si siede senza neanche mettere la carta igienica sul bagno dell'autogrill, secondo me, ma lo sapevo già nella prima parte della telefonata, è un cretino e non c'è appello, però è cassazione quello che io le sto dicendo. Ho capito, allora, ragazzi, io sono quello che sono, lo sapete, mi lavo poco, non mi piace l'acqua, eccetera eccetera, sarà pieno di malattie, però adesso fino a lì non ci arrivo, francamente. No, qualche volta l'ho fatto, ma tenendomi come se fossi su una turca, cioè tenendomi un po' in alto. Sai che è bellissimo, Gottardo, quando caghi e praticamente non vuoi toccare, l'ascoltatore ha introdotto questo argomento, non vuoi toccare il bordo del cesso, la tavoletta, qualche volta la tavoletta non c'è nemmeno, che ci sia, esatto, e non tocchi là e ti metti leggermente in alto, cioè la posizione, per chi vede la webcam è questa, cioè ti metti in posizione praticamente fetale, quasi posizione così in alto, non tocchi e senti, azzaduto, senti. Dopo un po' senti la parola all'esperto adesso. Sì, però la parola all'esperto. Attenzione, Giuseppe, perché più da più in alto cade poi quello che tu produci, sì, e esatto, più rischi il bacio di Poseidone, così, cioè, si chiama il rinculo, il bacio di Poseidone si chiama. Esatto, bravo. Dunque bisogna la posizione giusta è non troppo lontana dalla tavoletta o dal bordo, diciamo, del batter. La posizione unica è tenersela fino a casa. L'unica, vabbè, quello è d'accordo, ma se uno proprio, se uno non ce la fa, giustamente, Michele, era in un viaggio e non poteva, però invece di toccare come ha fatto sto zozzone Michele, che nemmeno io arrivo alla zozzeria di Michele, invece di mettersi a pelle sulla tavoletta, non so se ci fosse la tavoletta oppure se ancora solo no, mi pare di sì. Tu ti sei messo così, un bellissimo bagno, ma ho capito, però chissà con quanta gente si era seduta prima in questo bagno, amico mio, quindi se si è seduta me lo devo sedere pure io. Sì, io questo ragionamento potrebbe anche filare, diciamo, da un certo punto di vista, però comunque vabbè, ragazzi, è molto chiaro, io l'ho fatto più volte, cioè bisogna essere leggermente, non troppo in alto, come dice Gottardo giustamente, ma essere di qualche centimetro sopra il bordo di questo cesso, e perché altrimenti si rischia il rinculo, cioè si rischia che l'acqua sicuramente sporca e non delle cose tue, dei precedenti utenti, e ti vada sul culo. Dunque questa è una cosa molto interessante. Questo è un consiglio utile. Consiglio utile, però, caro Michele, tu hai fatto una cosa completamente diversa. Ciao. Lo so, ciao. Fabio da Roma. Fabio da Roma, avanti tutta, ultimo giorno dell'anno, ma siamo qui sopravviviamo. Ce l'hai con me, Fabio, io ero. Sì, sì, sì. Fabio. Siamo qui, con una B, però, sopravviviamo, forse, no? Sopravviviamo. No, con due B a Roma, Fabio con due B. Fabio, cioè, però Fabio, in italiano sarebbe Fabio, credo. Vabbè, ma è uguale, dai, in su. In italiano corretto sì, però dimmi, a Roma Fabio. È Fabio. Vai, Fabio. dimmi. Evviva. Ascolta, ma vabbè, fate lo squat per pisciare, qual è il problema? Come le donne fanno, famo noi, no? Uno fa lo spot e piscia, ma non è questo il problema. Dice intanto, un tutor. Un tutor, esattamente. No, il tutor. Odio i tutori, i tutorial. No, vai. Invece il motivo della telefonata era proprio per un tutor che non avete mai fatto. Qual è? Inculata a destra, inculata a sinistra, ma i preliminari dell'inculata, ma chi li racconta? Cioè del sesso anale, anche là abbiamo, anche lì abbiamo dato. Ma non è anche una banalità. Banalità, perché banalità? Banalità è per chi l'ha detta la banalità, invece bisogna saperle queste cose. Ma sì, ma l'abbiamo affrontato più volte. Senti questo argomento. Ma cosa sa il fenomeno? La preparazione per il sesso anale. La preparazione per il sesso anale può essere fatta in tanti modi, cioè non è che c'è bisogno. Adesso non il lubrificante. Apriremo, se vuoi, una specie di consesso, diciamo, su questo tema. Va benissimo. Certo. Certo, vabbè, perché sennò rimaniamo tutti ignoranti. Basta parlare di Covid, basta parlare. Mi sembra, Fabio, che tu con quell'altro scimunito che stavano pistando a Turinga hanno fatto due coglioni così. Parliamo di come si incula e qual è la modalità preliminare. Ma ne abbiamo parlato più volte. Usa crema, usa un no, vibratore. Sì, la crema e ti trovi tutto sporco di cioccolata, ma non ragioni pure te. No, no, dai, bisogna preventivamente utilizzare tipo il clistere, tipo qualsiasi cosa che possa evitare l'effetto, diciamo, l'effetto messicano, il famoso baffo messicano. Esatto. Ciao, ognuno amico mio, ha il suo sistema, no? Ciao Fabio, ciao. Con noi Alessandro Meluzzi, buonasera. Innanzitutto buona antivigilia del Santo Natale. Buonasera. Non capisco perché questo entusiasmo. Allora, caro Meluzzi, qui c'è una cosa molto importante che è successa. La Chiesa Cattolica, sì, ufficialmente il Vaticano, ha detto che i vaccini, cioè ha accettato che dentro i vaccini vi siano anche feti abortiti, pezzi, cellule di feti abortiti, il che a mio parere è una cosa incredibile, perché rinnega, io sono a favore dell'aborto naturalmente, per cui non me ne può fregare di meno, però nell'ottica di chi ci crede, nell'ottica della Chiesa, del Vaticano, accettare pezzi di feti abortiti dentro un vaccino mi pare clamoroso, incredibile. Come mai secondo te si è arrivati ma a questo? Ma anche perché è un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, che è la più alta autorità in materia di dottrina cattolica, sottoscritta personalmente dal Papa. Quindi si tratta di un documento di dottrina e non di una sparata giornalistica, quindi qualcosa di gravissimo secondo me. Ma perché è gravissimo? Io credo che questo sovverta dalle radici in questo, come in altri aspetti, il magistero della Chiesa rispetto alla sacralità della vita, all'intangibilità degli aborti, che oltretutto contenga anche un aspetto ancora più grave dal punto di vista morale, perché ci dice, intendiamoci bene, io non sono cattolico, quindi per gli ortodossi sarebbe assolutamente aberrante, lui è ma pope. Devo dire, cioè per gli ortodossi sarebbe lui aberrante, è primate, però devo dire che trovo che sovverta radicalmente la dottrina della Chiesa cattolica in materia di morale, anche perché c'è un retropensiero di tutto questo. Allora, se gli aborti umani, che sono vita e quindi sono esseri umani, possono essere utilizzati pro bono, quindi diciamo che i vaccini possono essere considerati una cosa buona, allora per quale ragione non pensare, per esempio, che come in Cina gli organi che vengono estratti dai condannati a morte, cosa che avviene sistematicamente in Cina, non possono essere utilizzati per i trapianti. Ma che in Cina le esecuzioni capitali vengono fatte negli ospedali per utilizzare in modo più fresco i cadaveri, per esempio. E io credo che tutto questo rappresenti un grande pericolo per l'umanità in generale. Ecco, ma scusami, ma questa deriva della Chiesa Cattolica, vedete, si inserisce secondo me all'interno di una questione più generale. Cioè? Oggi mi è arrivata la notizia che nel Duomo di Orvieto, dove c'è quello straordinario affresco di Luca Signorelli, dove è riprodotto non solo il Giudizio Universale, ma l'immagine dell'Anticristo, che ha lo stesso volto di Cristo e che però dice cose opposte a quella di Cristo, che è il tema appunto dell'Apocalisse, è stato fatto un presepe nel quale ci sono i tre re magi, Gasparre, Melchiorre e Baldassare, che hanno in mano non oro, incenso e mirra, ma i tre vaccini, quello della Pfizer, quello della AstraZeneca e quello della mRNA. Hanno fatto un presepe, io trovo che questo sia raccapricciante, perché rappresenta, come dire, una totale abdicazione ad un'idea trascendente del cristianesimo, rispetto al quale l'oro rappresenta la regalità di Cristo, la mirra rappresenta il tema della morte e della resurrezione di Gesù e l'incenso. Cioè, secondo te il Vaticano... Tutto di questa biotecnologia della Big Pharma, la Chiesa può abdicare e trasformarsi... Cioè, secondo te la Chiesa si è venduta alle aziende farmaceutiche, secondo te? C'è Bergoglio? La ormai non, quella Chiesa lì non c'è più oramai. Cioè, Bergoglio è Papa o no, secondo te? Non è Papa, secondo te? È un falso Papa, Bergoglio? Disse il Papa. Io non lo so. Credo che Socci sia molto più esperto di me in questo. L'hai detto più volte. Sostiene che è un usurpatore, anche il concistore che l'ha eletto, il conclave che l'ha eletto non è valido, che contraddice l'apostolici grecis di Giovanni Paolo II. Ma secondo te la mafia di San Gallo ha fatto la sua azione. La mafia di San Gallo, pure la mafia. Lasciamolo dire, i bellissimi e documentati libri di Socci, ai quali io non voglio attingere. Scusami, però secondo te invece al contrario, secondo te c'è in atto un progetto per il controllo dell'umanità? Cioè stanno cercando una deriva nella quale, come dire, c'è una visione tecnologica, tecnocratica e geopoliziesca del mondo che deve servire a toglierci ogni libertà. E i vaccini fanno parte di questo progetto? Ma i vaccini sono un aspetto, come dire, rispetto al quale bisogna distinguere, perché i vaccini non sono tutti uguali. Per esempio, bisogna fare attenzione, perché per esempio il vaccino della AstraZeneca è un vaccino semi-tradizionale, il vaccino cinese o il vaccino russo sono vaccini assolutamente tradizionali, che usano, come dire, gli spike proteici, sono vaccini proteici, sono vaccini anticorpali. Cioè quelli vanno il bene. Il vaccino, per esempio, della mRNA o quello della Pfizer invece sono vaccini genetici, quindi hanno un altro tipo di azione. Quindi mettere tutti i vaccini, giudicandoli dal punto di vista bioetico, nello stesso calderone è un errore gravissimo. Per esempio, mentre è abbastanza facile prevedere che cosa avviene con i vaccini proteici... Cioè tu te lo faresti quello russo? Ma io non so, non ne conosco completamente la sicurezza, però credo che mi sentirei molto più sicuro probabilmente nel lungo termine con il vaccino russo che con i vaccini genetici, senza ombra di dubbio. Cioè ti sentiresti più sicuro col vaccino di Putin, chiamiamolo così, piuttosto che col vaccino tradizionale che con il vaccino genetico, anche perché ancora nessuno ha studiato a fondo nel lungo termine. Nessuno ha visto i risultati del vaccino russo. Un vaccino genetico, come dire, può avere degli effetti. Scusami, spiega sto fenomeno. Ma questo non lo dico io, lo dice la Pfizer. Spiega sto fenomeno che, io mi fido più dell'Occidente. Spiega sto fenomeno qua, che non voglio neanche dire il nome. Io, francamente, mi fido molto di più degli enti certificatori dell'Occidente libero e democratico. Se sto personaggio qua, se Alessandro I, primate della Chiesa autocefala e quant'altro, se il signor primate si fida dei russi, si faccia inoculare ovunque quello dei russi. Io mi fido, non c'è problema, molto di quello che c'è scritto nel bugiardino della Pfizer. Sì, perché nel bugiardino della Pfizer c'è scritto che si tratta di un vaccino sperimentale. Il primate? E certo quindi sperimentale. In quanto tale certo. Deve essere considerato. Ma certo, lo dico a tutti questo, cosa vuol dire? Per nessuno. E quindi un vaccino obbligatorio almeno per i medici, certo. E quindi c'è scritto nel bugiardino della Pfizer, vi invito a leggerlo se sapete l'inglese, che si dice che semplicemente chi si sottopone al vaccino deve sapere ma che i benefici possibili. Ma su tutti i bugiardini ci sono scritte delle effetti collaterali. Sono completamente ma rischi di che tipo? Ma non rischi per la vita. Il rischio che semmai sia inefficace, ma non per la vita. Ma di che rischi parli? Ma quale? Ma di che rischi parli? Non rischi per la vita. Nessuno ha detto rischi per la vita. Scusa, primate autocefalo. Primate autocefalo. Primate, Alessandro, primate, primate, scusami, primate autocefalo. Ma scusami, un attimo, aspetta un secondo. Scusa, primate, una sola cosa, una sola. Sei giù Parenzo, giù. Per quello che riguarda Parenzo, invece vorrei dire un'altra cosa semplice, che se fosse stato fatto uno scempio come quello che è stato fatto della tradizione cattolica con i re magi sbeffeggiati e ridotti ad una farsa per le cerimonie che so della Pesach o di Hanukkah, ci sarebbe stata un'insurrezione. Ed è giusto che sia così. Mentre invece sulla Chiesa cattolica, ma chi ha detto niente? Chiunque, ma chi è che vuole ridurre? Scusa, ti volevo chiedere, ma chi è che vuole ridurre la popolazione? Ma te che te ne frega che sei primate della Chiesa autocefala? Ma te che te ne frega? Ma a te che te ne frega, a parte che l'hanno fatto, ma io infatti non dico nulla, ma io infatti non ho detto nulla, ma a te che, ma tu non unirti che è meglio, non unirti che è meglio. Non unirti che è meglio. Ma chi l'ha detto? Ma chi mai l'ha detto? Allora, ma chi l'ha detto? Ma poi a te che te ne frega, tu che sei primate, che te ne frega? Ma scusami, ma chi è che vuole diminuire la con i finti re magi? Chi è che vuole diminuire la popolazione, Alessandro? Chi è che vuole ridurre la popolazione? Ma non lo so, beh, io mi limito a dire quello che c'è scritto nei documenti di Gates, vuole ridurre giusto la popolazione mondiale e di 1 miliardo e qualche cosa, quindi avrà ragione i lui, deliri di internet, i deliri di internet, no, fai no, primate. C'è scritto, no, dove c'è scritto? Hai scritto delle minchie, hai twittato una minchiata su Bill Gates, ti devi vergognare. Ti devi vergognare, ti devi solo vergognare di quello che hai scritto su Bill Gates. Ti devi vergognare, primate. Sei un primitivo, non un primate. Sei un primitivo. Che senso ha? Hai scritto stronzate su Bill Gates. Hai twittato delle stronzate sulla fondazione di Bill Gates. Ti devi vergognare, primate. Non sei un primate, sei un primitivo. Primitivo, primitivo, primitivo, primitivo. Ma sì, grazie, ma mi tocco a carne e faccio pure le corna. E poi auguri. Salvatore da Roma, io non capisco dai. Perché lo fai parlare e non lo metti mai in contraddizione. Salvatore mai. Da Roma, vai. Perché ti sembra che, ma dice cose normali secondo te? Dice cose normali. Salvatore da Roma, vabbè, bene? Non sento niente, non sento niente, non sento niente. Dimmi, dimmi, dimmi. Ecco, io non ho tanto tempo, voglio solamente dire a quella persona lì che dice che vuole il diritto di vuoi sapere. Mettere bene il telefono, togli l'auricolare, no, c'hai l'auricolare, viva voce c'hai, non c'è no, viva voce Lorenzo da Genova, mi sa mi sono rotti i coglioni. Lorenzo da Genova, dai, dimmi. Ciao ragazzi, ecco, vedi che si sente bene, dimmi. Dimmi. Volevo dire, senti un po', ma come avete fatto a prendervi Gottardo? Cioè eravate l'unica radiofonica a favore della marijuana, ora ci avete Gottardo. Sai, a noi piace la discussione, a noi piacciono le idee diverse, non ci piace. Io ho capito, ma che discussione non ci vuoi fare? Non ci piace la. Beh, se uno pensa che la droga faccia male, vai a Sarta a discutere con le madri di quelli che muoiono. Certo, non c'entra un cazzo, però esatto. A parte che non c'entra un cazzo, poi vai a vedere le non c'entra nulla. No, è la fine di un percorso. Le condizioni delle famiglie, non andare a vedere se si fanno la cannetta. Le condizioni della famiglia, sociologia oggi. Ma cosa c'entra adesso il Sert con le canne? Cosa c'entra il Sert con le canne? Dai. Comunque allora, tutti i droghi, no? Tu usi la marijuana, amico nostro. Io ogni tanto sì. Ogni tanto, bravo. È ovvio, ma cosa vuoi che sia? Sai quanti neuroni ti muoiono ogni volta che ti fumi una canna? Ma si usa anche per scopo terapeutico, No, sì, però è dimostrato che c'è un danno neurologico. Ma quale danno? Specialmente quando i minorenni. Ma quale? Specialmente quando i minorenni assumono marijuana. Ma come il vino, come se bevi tanto vino. Ma i minorenni, minorenni, ma come non bisogna dargli l'alcol ai minorenni? Appunto. Ma ce la benissimo, faccia, ma benissimo. Ma a che età ti sei fatto la prima cannetta tu? Ma sì, a 15 anni, 16, sì, ma chi se ne frega? Come ha fatto la prima birretta? Ti sei rosicchiato, ti sei rosicchiato una parte del cervello. L'ho presa e quella non guarisce più. Pensa a Meluzzi, che non si è mai fatto una canna, pensa come hai ridotto Meluzzi, senza farsi la canna. Lo dici tu, lo dici tu. Ma no, magari se le fosse fatte starebbe meglio. Pensa a te come hai ridotto. Come tutti gli altri, te l'hai presa la laurea? No, non ho preso la laurea, perché ho iniziato a fare giornalista. Purtroppo è una malattia che ti viene, la stessa di Parenzo. Sempre meglio che lavorare. Sì, cannetta. Ne ho fumate ciao, tre o quattro, ragazzi, grazie ciao, a Dio non mi fanno nulla. Ma Gottardo, ma la vagina di tua mamma ha ancora scorreggiato? Si scorreggia? Prova domanda, gli dai, se la vagina di tua madre ha ancora scorreggiato. O te Cruciani, prova a domanda, gli sei scorreggiato la vagina di tua madre. E qual è il problema? Pezzo di merda. Allora ragazzi, c'è un signore che si chiama D'Urso. Franco D'Urso è un pediatra, se non sbaglio, un pediatra molto negazionista. No, non è parente di Barbara D'Urso. Ci prendono in giro con questo vaccino. Sentite questo, poi lo chiamiamo. Che vaccino è? Chi lo sa? Ci hanno detto un RNA messaggero, che vuol dire? Ma scusi, mi prendono in giro? Cioè, inoculano dove? Sotto pelle un RNA messaggero? Scusate, non mi prendete in giro, io faccio il medico, non faccio, so che cosa significa. Ecco, questo possono cambiare dei piccoli genomi, una parte di genoma, con un retrovirus, con un virus RNA. Quindi che cosa significa? Che diventa questo pezzettino diventa un qualcosa che proviene dal virus. Io spero che ci sia una ribellione, perché tu non puoi inoculare al paziente o tu stesso una cosa di cui non conosci nulla. Prevedo battaglia, caro Parenzo. Beh. Prevedo battaglia. Franco D'Urso, pediatra catanese, sostanzialmente negazionista. Io diciamo, non me per ne starò così. Zitto. Io non me ne starò zitto. Sì, fammi partire un attimo. Tu gli liscerai il pelo come al solito, perché lo difenderai. Pronto? Sì, dottor D'Urso? Sì. Buonasera, chiamo da Radio 24, mi chiamo Cruciani, come va? Bene. Senta, io ho sentito un suo video molto interessante in cui si parlava della questione della dittatura, per esempio, no? Della dittatura sanitaria, della letalità, dei dubbi sui vaccini e cose di questo tipo. Ecco, lei, per esempio, sì, che è un pediatra, che dubbi ha sul vaccino, se posso? E lei fa una cosa che non sa nemmeno di cosa si tratta? Solo perché le hanno detto che va benissimo? No, io mi fido, in teoria uno si dovrebbe fidare. Si fida di chi? Scusi. Della scienza in generale. In che senso di Bill Gates? Perché secondo lei c'è Moderna chi c'è? Chi c'è da Moderna? Chi è che ha la maggiore azione della Moderna? Ma Bill Gates può darsi, perché non è solo Bill Gates. Melinda e Bill Gates, marito e moglie. Sì, ma perché uno non si dovrebbe... La domanda che le faccio, perché uno non si dovrebbe fidare di Bill Gates? Ecco, questo voglio dire. Allora, non si può fidare perché questo c'ha le mani dappertutto. Cioè, secondo lei è solo una questione di denaro, cioè lo vogliono far circolare il vaccino, cioè vendere quantità massicce di vaccino, non perché salva l'umanità dal coronavirus, ma solo ed esclusivamente salva per denaro. Salva l'umanità da che cosa? Abbi pazienza, perché è importante. Dal questo, Covid, no? Io sto dicendo quello che dicono loro, quello che dicono è questo, noi col vaccino salviamo l'umanità dal Covid. Quindi la prima cosa che dobbiamo chiederci è la letalità di questo virus, ci siamo? Sì. A me se non concesso che sia come dicono loro, che questo virus è potentissimo, è vitale, eccetera. Lei l'ha visto le statistiche? Sì, di come no, certo. E di letalità, sono due cose molto diverse. Cioè, mentre la mortalità è riferita alla popolazione, sì, la letalità significa quanti morti questo veramente sta provocando. E secondo lei sono pochissimi, mi sembra di capire che sono pochissimi. Quando sono inferiore a 50 anni, sì, è del 2-3%. Sì. Diciamo come letalità, sì, mentre invece se sono superiore a 50 anni, se è inferiore a 50 anni scende a 0,5. Quindi significa che non è letale. Guardi, le faccio un esempio. La spagnola era veramente più letale di questo. Dunque, la conclusione di questo ragionamento è questo: se, non essendo un virus letale o un virus con una letalità molto bassa, lei dice il vaccino è una buffonata, è una cosa che non serve a nulla. Buffonata lo sta dicendo lei, io dico soltanto che è un qualche cosa che non ha veramente senso. Sì, ma c'è solo Bill Gates dietro? Al di là delle questioni scientifiche, l'ho capito benissimo, le sento già da un sacco di tempo. Dietro, secondo lei, chi c'è? Cioè, dietro questo grande... Ci sono grosse famiglie interessate a che possono decimare un po' la popolazione. Ah, decimare la popolazione, addirittura? L'ha detto lui stesso, Bill Gates, siamo troppi, insomma, non possiamo sostenere questo ritmo. Cioè, praticamente siamo 7 miliardi e 8, lei lo sa meglio di me. Assolutamente. No. Allora, se noi dimezziamo la popolazione, ma non possiamo dimezzarla con le bombe, sì, con i cannoni, la terza guerra mondiale, secondo il mio punto di vista, è questa. È questa. Cioè, e chi l'ha messo in circolo il virus, allora? C'è qualcuno che dall'origine ha messo in circolo il virus arrivare al vaccino? No. L'hanno studiata già da molto tempo, prima con la aviaria, poi con la porcaria, poi con... Guardi, ne hanno fatte di tutti i colori. C'è il nuovo ordine mondiale, secondo lei? Io direi che ci stanno provando. Non so se poi ci riusciranno. Ma lei, per esempio, personalmente non lo farà il vaccino? Quanti anni ha lei, D'Urso? Io ne ho 72. Dunque, lei è perfetto per il vaccino. Sarebbe perfetto per il vaccino, per iniziare il vaccino. Il professor Galli dice che si vaccinerà subito, domenica. Perché, perché non va a vedere un po' i conti correnti del professor Galli? No. Io lo spiego un attimo. Scusi, mi dica. Se voi controllate un po' i conti correnti, come si gonfiano con certe situazioni, perché io faccio un lavoro, tu mi paghi. Crisanti ha fatto un lavoro. No, ma mi scusi, non riesco a capire ancora il conto corrente. Cosa sta dicendo lei? Cioè, mi spieghi? Veramente non riesco a capire. Non mi sto incazzando, non riesco solo a capire. Il conto corrente di Galli, che anomalia avrebbe? Non riesco a capire. Secondo lei alcuni si sono arricchiti in questo periodo? Alcuni virologi? Queste persone che io conosco un po' per sentire. Se lei dice sono un po' oliate dalle multinazionali, questo lei dice. Scusi, se lei lavora e le danno un lavoro e lei deve naturalmente lavorare su questa radio, perché non so, adesso in questa radio non lo so. Si beccherà una bella querela. Come? Si becca una bella querela. In che senso? No, ma non lo so, adesso lei sta dicendo una cosa. Se uno dice una cosa molto grave come questa, che molti di questi virologi sono oliati dalle case farmaceutiche, lei questo ha detto, becca una bella querela. Ma la querela io stesso. Scusi, io siccome conosco un po' il vostro giochetto, io conosco. Ma non c'è nessun giochetto, la domanda è questa. Lei ha detto andate a vedere il conto corrente di Galli. Andate a vedere come certa gente guadagna certi soldi, ci siamo? Questa è un'accusa precisa, anche se un po' così. Io faccio un lavoro, abbi pazienza, io faccio un lavoro se dicono serio, cioè quello che è. Dopodiché naturalmente mi pagano il lavoro, io pago le mie tasse, qual è il problema? Però lei può sputare sul piatto dove mangia? Non credo. Sta dicendo che i vaccini fanno parte di questo pacchetto, diciamo, dire sì ai vaccini. Questo lo sta dicendo lei, io sto dicendo soltanto che un vaccino dove non c'è scritto nulla, dove non ti dicono che cos'è, cosa c'è dentro, perché loro devono difendere il loro prodotto dall'industria, a quel punto lei si fa questo vaccino, se lo faccia. Una persona riceve un danno da questo vaccino? Questo non lo sappiamo, ma sicuramente non sarà una cosa normale, perché lei veda, sta alterando una sequenza genetica. Cosa vuol fare? Uno che altera è un OGM. Si trasforma, cioè praticamente noi ci trasformiamo in OGM sostanzialmente. Non completamente, ma naturalmente quello che interessa a loro. Lo sa come si fa? Cioè, come interessa a loro che cosa? In che cosa vogliono trasformarci? Naturalmente non lo sappiamo cosa può succedere oltre a questo, perché quando lei ha un genoma, una parte. Cioè, ci vogliono mettere. Qualcuno dicono, ho letto che vogliono controllarci, metterci qualcosa dentro il corpo per controllarci. Beh, sa, ci sono di queste cose, perché il fatto quantum, lei lo sa, oppure i microchip esistono, sono talmente piccoli che sono a livello di nano e lo vogliono fare per controllarci, secondo lei, Bill Gates e compagnia cantante, che ne so, Rockefeller, sì, Rothschild. Le dico che l'intenzione ce l'hanno, poi che se lo fanno o non lo fanno, sinceramente, è un'altra cosa. Questo, pensi che io ho fatto una denuncia alla Procura della Repubblica di Catania, sì, se vuole poi gliela mando, sì, per il tampone farlocco. Perché secondo, te, secondo lei molti, molti sono farlocchi i tamponi? Direi la maggior parte. E la mascherina lei la porta? La devo portare per entrare nei negozi, perché sennò gli chiudono il certo, negozio. Però non serve un cazzo, dice. Mi porti lei un lavoro dove si dice che la mascherina ti protegge dal virus. Uno, no, 10, 20, 30 lavori. Beh, insomma, ce ne sono. Lavori importanti. Uno, ce ne sono. Me lo porti uno. Ce ne sono, lo dicono continuamente, l'OMS. Chiacchiere altre... non ne mangio io, scusi, io chiacchiere non ne mangio. Per voi giornalisti mangiate chiacchiere, io no. Ma ho capito, quindi, ma i morti, per esempio, i morti sono veri o non sono veri i morti? Quali morti? Quali? In generale, i morti di Bergamo, di Brescia. Lei, ma hai visto, lei ne ha visti adesso morti di infarto, di cancro, di leucemia, ne ha visti adesso? Beh, no, non si vedono quelli, no. Tutti no. Covid sono, tutti Covid. Cioè lei dice che c'è una grande truffa, no? I morti di Covid sono pochissimi. Beh, lei sta dicendo la truffa, io non ho detto truffa, ho detto soltanto che io non vedo tutti questi morti che pensano, che dicono loro. Non ci sono tutti questi morti. Lei, medico pediatra, dice che non ci sono tutti questi morti. Parenzo, a parola a te. Scusi, che dunque, vuol dire che medico pediatra? Dunque. Io con calma ho sentito, sono stato anche censurato da Cruciani che mi ha chiuso Parenzo, il microfono. Scusi. Sono io durante la Parenzo, conversazione Parenzo, mi sono stato censurato. Mi hanno chiuso il microfono. No, non t'hanno chiuso e mi appello al garante. Mi appello al garante. No, Cruciani mi ha chiuso il microfono perché Cruciani voleva sentire fino in fondo dove lei sarebbe arrivato. Io non ho questa curiosità e le chiedo scusa. Io non ne posso più di sentire stronzate. Molto semplice. Non ho critiche da fare. Io, a differenza di Cruciani, non ne posso più. No, non ne posso più. Non ne posso più. Non vi sopporto più. Io non vi sopporto più. 40 anni, dai. Sì. 45 ecco anni. Ecco l'altro. Ecco l'altro. Ecco l'altro. Ecco l'altro. Ecco l'altro. Io non ne posso più. Non ne posso più. Non libertà. Libertà, libertà di dire stronzate, ma libertà, è la libertà, sua libertà, opinione, libertà. È la sua opinione, libertà, non sono stronzate. Possiamo dire ma che sono cose che non hanno. Scusi, no, possiamo dire. Allora, la domanda molto semplice perché che lei faccio è: scusi, no, perché l'EMA e la Food and Drug Administration hanno autorizzato negli Stati Uniti e in Europa il vaccino? Risponda subito! Glielo spiego io. Subito! Subito! È inutile. Allora, io intanto con lei non voglio parlare perché lei non è un medico anch'io. E quindi non ha uguale. Nessun titolo per anch'io poter uguale. Discutere anch'io con uguale lei con lei. Ma non c'è da discutere, sì, ma ogni cosa lei non può c'è discutere da con me discutere. Che sono medico ed è una non vita c'è che da discutere medico, non ma io non mi farei io non mi farei curare neanche l'unghia incarnita di un piede. Ma questo l'ho detto a tutti perciò tanto se ma glielo dico anche a lei, glielo dico anche a lei, io mi fido di altri medici. È inutile, è un uomo inutile, l'ha messo, è inutile che lui risponda. Dottor Durso, allora risponda però alla domanda: perché hanno autorizzato la distribuzione del vaccino? Glielo chiedo a loro. Io sto dicendo soltanto che io non autorizzerei un vaccino. Cioè, se viene uno da lei, lei fa il pediatra, se viene una famiglia da lei e dice: dottore, chiediamo un consiglio, che dobbiamo fare? Lei dà il consiglio. Io credo, signora, lei del bugiardino, vede un po' che cosa c'è scritto. Dopo quello che c'è scritto, lei si accorge se effettivamente vale la pena o no. Per una letalità. Ripeto, letalità. Dunque lei, lei consiglia COVID di non farlo, sostanzialmente consiglia di non farlo. Io spiego soltanto le cose. Pfizer sa chi è? Sì, certo, sì. Una grande multinazionale, certo. Multinazionale, e che cosa c'ha di proprietà? C'ha anche Wuhan, lo sapeva lei? E allora, sì, quindi? Ha partecipato a Wuhan, certo. E dunque, certo, ma tante multinazionali partecipano. Ha partito col pangolino e con il pipistrello, eccetera. Cioè, tutte queste cose, queste idiozie che dicono, eccetera. Ma tutte idiozie, cioè, l'hanno fatto apposta. Cose che hanno fatto, cose che hanno mamma fatto apposta. Mia, sta dicendo mia. Delle cose che io non ho detto. Senta, posso dire una cosa? Io mi fido di Fauci e non di un coglionazzo come lei. Posso dire di questo? Fauci? Posso di Fauci, dire io. io mi fido più di Fauci che non di un coglionazzo come lei. E il termine coglionazzo è riduttivo e anche vezzeggiativo, se vuole. È vezzeggiativo. Scusa, tu ti fidi più di Urso o di Burioni? Ma io mi fido di più del fornaio sotto casa per parlare di medicina, del mio fornaio, quello che mi fa le zoccolette. Ma D'Urso ha fatto il pediatra per 40 anni. Ma D'Urso, Barbara D'Urso conosco io, non D'Urso. Lei, Parenzo, che è sempre il più idiota che esiste come giornalaio, lei come può dire a un professionista che ma quale professionista? Ma lei ha detto che Fauci è un cesso, scusi. Lei che è un giornalaio si permette di ha insultato Galli. Ma lei ha detto che Galli c'ha il conto corrente da verificare, ma come si permette? Ma lei si beccherà una querela per diffamazione. Io verificherei i conti correnti. Ma che allora io verificherei i conti correnti di questo qua. Lo verificherei. Il suo. Il mio? Sì. Io sono tranquillo. Mi sapete dire come mai non c'è morto nessuno? Nessun politico, che è un grande, non è morto nessuno, guardi. Abbiamo Mattarella e altri, ne abbiamo di anziani. Cosa vuol dire? Eppure non muore nessuno. Si sono protetti e isolati, che vuol dire? Mi sta dicendo, allora andiamo fino in fondo. Mi faccia capire, come mai secondo lei alcuni politici non si sarebbero, a parte che la Lorenzina è stata molto male, come mai alcuni politici non si sarebbero infettati? Sentiamo la sua teoria. Non faccia domande, dia anche risposte stronze a questo secondo punto. Lui si sono... secondo lui esiste sto Covid o no? Questo è il punto finale. Esiste o no? Tu ti rendi conto chi sta incoccolando? Non come dicono loro. Per cui secondo lei bisognerebbe essere tutti liberi di circolare, incontrarci, abbracciarci e fare la vita come prima. E la paura che avete inculcato, il terrore che avete messo in giro. È il terrore che uccide. Gente che non riusciva a respirare a casa. Beh, non solo, comunque avanti. Vanno a sparare a cazzate, Parenzo, va a cagare, vai figlio. Criminale. Cioè, ragazzi, ne vogliamo parlare o no? Che da Pornhub hanno tolto il 98% di porno lesbo. Cioè, se tu cerchi ora porno lesbo su Pornhub, è più probabile che ti spunta Adinolfi e due lesbiche. Oh, voglio ridateci la sforbiciata. Io giuro, non ce la faccio più con voi, non ce la faccio più, cazzo. Una volta il podcast va, una volta il podcast finisce presto, una volta si ripetono le cose. Ma come cazzo fate figa sempre? Vaffanculo! Parenzo, se quel pediatra secondo te negazionista che abbiamo intervistato deve essere interdetto dalla sua professione, è un soggetto molto molto pericoloso per le balle che ha raccontato. Ne dico non una può soldato. Fare il pediatra secondo te, non ho capito, vaccino non va bene, ma questo è ovvio, non dovrebbe, ma è una cosa pazzesca, ma non dovrebbe fare il pediatra, è una persona pericolosa, cioè voglio dire, ha detto peraltro tra le tante stronzate che la Pfizer possiede delle quote del laboratorio di Wuhan. Vabbè, quando il laboratorio perdere, di Wuhan è statale. Cioè, se uno dice che il vaccino non ha senso, se uno eccetera, dice eccetera, delle balle, il pediatra, secondo se me, uno dice delle balle, va aspetterà l'ordine dei medici, ma mi auguro che intervenga tu e faccia qualcosa. Al culmine del fascismo, tu ce lo porteresti. Ma non è questo di fascismo sanitario. Tu porteresti tuo figlio a curarti da uno ma che ma non me ne frega niente. Ma che cosa vuol dire? Se uno non vuole il vaccino, non vuole il vaccino, non è che non vuole tutti i vaccini. Ma non ha detto solo questo, ha detto la quantità cose, di cose sono opinioni, false. No, non è un'opinione. Se tu dici che la Pfizer è proprietaria del laboratorio, ma che ha lavorato al laboratorio di Wuhan, la Pfizer, chi se ne frega, ma per è me? Statale. Fermi tutti, che Daniela Martani ci racconta quello che è successo oggi con il signor Romano. E io, mentre parla la Martani, mi faccio flambare una grigliata di carne. Ottimo. Una grigliata di carne che mi hanno portato qua i miei amici di un ristorante vicino allo studio radiofonico di Paolo. Guarda la grigliata in webcam, grigliata con salsiccia, costicine, c'è anche dell'altro tipo di carne, il cibo gratis a questo tutto qua? flambato e affumicato da Antonio Ferrari, e vaffanculo i vegani. Manco i bambini di 10 anni proprio. No, però scusami, istruzioni per l'uso. Ora stai dando la parola a questa qua, a questa qua, che racconterà una serie di cose. Questa qua, che racconterà delle cose non verificate, facendo una diffamazione nei confronti di Romani. No, diffamazione non lo dico. Cosa è successo? Cosa è successo? È una diffamazione che rischia di fare. Che diffamazione? Sta raccontando quello che è successo. Che diffamazione? Come facciamo a sapere se è vero? Vogliono parlare e dire la verità, quindi taci per favore. Come facciamo a sapere se è vero? Intanto diffama, però. Ma che dici? Ma scusami, se uno chiama e dice che io... Fai raccontare. Chiamalo in diretta con me, mi devi dire se è vero. Allora, io stasera stavo al supermercato vegano, sono uscita, è passato Andrea Romano, evidentemente abita in zona, credo, zona Prati. Stava con la bambina, una figlia, penso di 7-8 anni, non so quanti anni aveva. Vabbè, comunque io appena l'ho riconosciuto, nonostante la mascherina, gli ho detto: siete dei maledetti, state rovinando il paese. Siete maledetti come governo, chiaramente. Il governo è maledetto. Ho capito, uno lo incontra per strada, uno ti urla. Se uno per strada ti urla, sei pure fortunata. Non ho urlato per niente, guarda, lui è... Ma se io sono con mia figlia, però scusami, non per difendere Romano. Se io sono con mia figlia, no, stai buona, una calma. Calmati un attimo, ragazzina. Calmati un attimo, ragazzina. Calmati un attimo. Se io, se mentre sono per strada con mia figlia, una matta mi dice ste stronzate, la mando a fare il culo io in due minuti. Capito? Aspetta, che succede? Se io trovo per strada, assolutamente. La contestazione politica è sempre stata fatta. Ma era con la figlia, ma che ti frega? Se io trovo una matta così per strada, ti mando a fare il culo, altro che troppo buono è stato. Troppo buono è stato. Ma quale mani addosso? Ma che è successo? Aspetta, fatemi capire che è successo. Ti becchi una bella querela, ti becchi. Altro che... Stai zitto, mi fai parlare? Dunque, stai diffamando. Questa è il vostro... Ma cos'è la democrazia? Diffamare una persona? Ma diffamare la democrazia? Tutte le voci, ma dire che uno ti ha aggredito è diffamare, non è democrazia. Calma. Allora, sei una diffamatrice. Aspetta, allora, stasera ho incontrato Andrea Romano, è scritto, gli ho detto: siete maledetti, state rovinando il paese, vergognatevi. Questo l'hai detto? Sì. Gli hai urlato, quello stava con la figlia fuori dall'auto. Non ho urlato niente, è passato, gliel'ho detto. Lui si è avvicinato verso di me, è tornato verso di me, mi ha detto: cosa hai detto? Gli ho detto questo, mi ha messo proprio davanti a tipo un millimetro dalla bocca, ok? Sì, con fare minaccioso sembrava che mi volesse picchiare. La bambina ha iniziato a piangere per colpa sua, no, perché mi ha aggredita, per perché colpa si è messa tua. In mezzo, pensa, la bambina si è messa in mezzo tra me. No, caro, io non sono andata addosso a lui, fammi lui sentire. Che è venuto addosso a me, e hai capito? Lui querela. Che è venuto verso di me e la bambina si è messa in mezzo piangendo. Ma tu come ti permetti che c'è una bambina che fa sta scenata? Ma come, scusami, ma come ti permetti? Ma tu come ti permetti che una persona sta aspetta, camminando? Aspetta, mi fai sentire i fatti. Mi fai sentire i fatti. I fatti secondo lei? Di fermarmi perché voleva che io rimanessi lì, perché voleva chiamare i carabinieri. La bambina si è messa in mezzo urlando come poverina, mi è dispiaciuto tantissimo, brava, complimenti per quello che hai fatto. No, complimenti, tu prendi a te ne vai. Non io se trovo una matta così che mi rompe i coglioni per strada, devi ringraziare. Che fai? Ma che mani addosso? Chiamo la polizia sicuro però. Ragazzi, stai allora, ferma un attimo. No, però scusami, sta facendo... State giù un attimo, state giù. Sto facendo delle cose insopportabili. Tu sei un servo del sistema, capito? Tu sei un servo del sistema, sei un lecchino del cazzo, sotto le palle, perché tu non puoi far parlare nessuno. Scusa, c'è una differenza. Ne posso dire una cosa? Lecchino, servo del sistema, non me ne frega un cazzo. Io ti voglio dire una cosa. Se dovesse capitare a me, che sono con mia figlia per strada e trovo una matta che mi fa una scenata, come minimo non solo chiamo la polizia, ma ti trattengo anch'io prima che scappi. Capito? Matta scriteriata sei te. Allora, per adesso ti becchi la querela, per fortuna. Scusami, la cosa che voglio capire però, Daniele, è questa. Dunque, a un certo punto lui si è fatto sotto, ha detto fino a praticamente... Si è fatto sotto lui, perché lui non è che ha tirato dritto. Ok, voleva chiamare... Uno ti insulta e tu tiri dritto. Ma scusami, uno ti insulta... Tu sei andata via e lui ha fatto. Scusami, ma io devo parlare con Parenzo sei andata via, sei andata via, sei andata via, sei andata via, e che cosa? Dietro. E poi che è successo? Ti ha minacciato? Che cosa ha detto? La bambina mi ha detto: no, tu sai qua, mi ha preso da dietro. La bambina si è messa a piangere in mezzo a, tra me e lui. E poi cosa ha detto? E poi niente. La no, sei fortunata che non, tu hai scritto: sei fortunata che non sei un uomo. Mi ha detto: sei fortunata che non sei un uomo. Sì, sì. Perché altrimenti, diciamo, teoricamente ti avrebbe picchiato. No, diciamo. Mi voleva, guarda, che ti giuro, se non ci fosse stata la figlia, secondo me, anche nonostante sia donna, ma mi voleva mettere le mani addosso. Te lo posso diffamazione assicurare, e spero che ti quereli. La moralità che ha avuto, certo, nel avvicinarsi. Ma ti pare che sputare una persona così? Se è quello che è successo. Però scusate, ragazzi, io non è che voglio fare il giornalista, perché anzi, vorrei fare. Io non vorrei che questa trasmissione si trasformasse nello sputtanamento delle persone, perché questo è indegno. Telefonare e sputtanare le persone è indegno, indegno, perché se uno chiama e mi diffama, io lo denuncio, fermi tutti, non sto in gioco della diffamazione. Giù tutti e due, giù tutti e due. Innanzitutto, tu non sei Andrea Romano, ma sei David Parenzo, e non sta dicendo nulla su David Parenzo. Primo, sta raccontando la sua versione di quello che è successo, che è chiaramente la sua versione, quindi qui non c'è nessuno sputtanamento. C'è Daniela Martani che racconta quello che le è successo davanti a un supermercato. Io non mi penso certo balle, guarda. Ma scusami, ma se uno, punto, chiama, se uno chiamasse e dicesse Parenzo... Ma un nome e un cognome. No, scusami, ha un nome e un cognome. Scusami, ha un nome e un cognome. Però è indegno. Andrea Romano, se è vuole, indegno. Se vuole, e replica... Che lo faccia. Andrea Romano, se vuole, chiama e dice la sua. Ma siamo punto, sicuri. Hai aggredito verbalmente una persona che era con la figlia per strada. Guarda, e io ti ripeto che se fosse capitato a me... Ti hanno tirato le monetine quando ci sono... Allora, te lo ricordi? È un'aggressione, no? Stata. Le contestazioni politiche sono sempre esistite, sono è un'aggressione. Perché il popolo quella si è rotto le scatole, capito? Ma tu detto, sei detto, solo ormai una governo, mezza matta, che l'unico stupato, modo che hai per farti notare è questo. Tu, stare, no, tu sei solo ormai una mezza squinternata, anzi mezza totale. Scusami, io non mi aspettavo questo, ti giuro, questa... Sei una mezza matta ormai te. E che ti devo fare? Che ne so io? Cioè proprio veramente sì, contro le sai cosa mi fa veramente lei ha detto che scusa il livello dell'esibizionismo lei ha detto semplicemente uno la voleva picchiare quasi lui lei gli ha detto delle cose che magari sono sgradevoli tipo maledetti e uno lo voleva picchiare dovresti stare dalla parte sua tu dovresti stare dalla parte sua secondo te è credibile ma secondo te non so quanti anni ha hai spaventato la bambina lui ha protetto la bambina perché ha visto una matta. Se uno mi urla, però scusami, tu non hai figli e sei una povera mentecatta. Se tu, scusami, se io sono, io mi metto nei panni di Romano, ti dico una cosa: io sono per strada con mio figlio di 7 anni e vedo uno che mi urla per strada, torno e che mi frega? Vedo uno che mi urla per strada quando ho mio figlio davanti per proteggerlo. Per proteggerlo, vado lì. Chiamo la polizia critiche, e se te ne vai prendi, ti prendo per un orecchio ti e ti tengo là. Questa non è aggressione. Tu stai, tu sei una poveretta che siccome che non ti caga nessuno se non questa trasmissione, siccome non ti caga nessuno, nessuno se la caga questa, ma chi è che se la caga? Nessuno, se non viene qua non va da nessuna parte. Basta questa cazzata, basta, stai giù, giù Parenzo, fermi tutti, ciao Daniele. Ciao, a presto, ciao. Cioè, comunque la tesi della Saulino, per quanto io provi ribrezzo per quella persona, in parte è accoglibile, perché in effetti, diciamo, il bere senza sosta è una cosa che sì, viene determinata, insomma, da una grande attrazione sentimentale e fisica, ma anche dalla porcaggine del soggetto interessato. Mi spiego, il mio liquido seminale è stato bevuto sia da ragazze con le quali ho avuto rapporti duraturi, diciamo cosiddetti seri, ma anche da ragazze che erano delle grandissime porche con le quali non c'era nessun legame sentimentale, quindi diciamo che in parte la tesi di quella decerebrata è condivisibile in piccola parte, dai. Ma zero proprio, cioè zero proprio. La tesi sauliniana sull'ingoio collegato all'amore non ha nessuna valenza. E Gottardo lo può dimostrare nella sua recente esperienza, immagino, no? Nella sua anche nella pregressa esperienza. Allora abbiamo il collegamento. Anche nella recentissima, anche nella recentissima. Allora ragazzi, finiamo col botto, ve lo dico subito questa sera, eh. In un quarto d'ora, 20 minuti, andiamo poco meno di 20 minuti, siamo al top più assoluto. Innanzitutto collegamento con la Spagna, dove c'è un attore gay molto importante che si chiama Manuel Scalco. Buonasera caro Manuel. Buonasera, mi sta ragazzi, chiamando come, Romano, come andiamo? Come andiamo? Ho sentito la voce di Parenzo lì nei paraggi. Sì, Parenzo sta qui a occuparsi di altre cose, non si occupa di cose importanti. Ma c'è anche un, c'è anche un grande altro manzo, no? Gottardo. Visto, sì, c'è il signor Gottardo, sì, il signor Gottardo, sì. Sì. Sì. Gottardo, il quale non proverà mai. Gottardo. Gottardo, ma è il cazzo grosso lei? Ma insomma, secondo alcune mie amiche è abbastanza ragguardevole, me lo sono fatto misurare, sì. Ok? E sì. Il responso è stato incredibile, secondo me non l'ha misurato male io la ragazza. Io comunque ingoio, se lo volete sapere. Cioè, lei sì, nel, ma io con un uomo, set, io con un uomo al massimo gioco a tennis. Lei sul set, lei sul set, non solo, e non solo sul set, Scalco, lei ingoia, ci conferma questa cosa qua, sia sul set che fuori dal set. Fa bene alla pelle. Fa bene alla pelle, questa è una vecchia cosa che anche lei come gay ribadisce. Ma la cosa interessante di questa sera con il caro Scalco, che è in Spagna, a Madrid, è come funziona la questione dei club, dei club scambisti, dei club esatto. E dei allora, ritrovi, eccetera. Madrid, la situazione è totalmente differente dall'Italia, perché è tutto aperto. In particolare ci sono anche le saune. Praticamente in questo caso c'è una sauna gay, vabbè, i club per i scambisti, che è tutto aperto. E cioè lì in questo momento in Spagna tu puoi frequentare una sauna o un club per scambisti gay e cose di questo tipo? Assolutamente sì, ho fatto lo show esattamente domenica. Tra l'altro è entrata la polizia e mi ha beccato pure col cazzo duro. Non ho capito una cosa, sì, perché è entrata la polizia, scusa? Ma facevano altri controlli non inerenti, cioè le zone possono stare legalmente aperte senza problemi. Però la cosa divertente è che sono entrati e mi hanno trovato praticamente lì a cazzo duro. Sì. E la polizia spagnola non è come quella italiana, quindi sono molto aperti. Hanno cominciato a dire: ah no, vabbè, ma ce l'hai abbastanza grosso, no, ma facci sapere come funziona di qua e di là. Ma spiegami una cosa, ma tu in questo periodo anche di coronavirus, eccetera, eccetera, fai delle orge, gangbang o cose di questo tipo? Allora, io a parte prendere nel naso un sacco di tamponi, prendo anche i cazzi, perché comunque mi sono fatto tipo 12 tamponi così. Già, quindi mo si è aperto bene anche il naso. Però sì, faccio le... Guarda, organizzo giusto il 31 dicembre, alla faccia del signor Conte, organizzerò una grande gangbang nel mio edificio, qua a Madrid. In quanti? Dica dove? Madrid sarà un problema degli spagnoli. Ma in quanti, Manuel? Ma più o meno una trentina, perché ti spiego, la palazzina mia sono tutti froci, no? Sì. Quindi praticamente dal ma primo a te non piano, ti interessa ma... dire, in tutta questa attività diciamo di locali di performance di orge eccetera eccetera, tu te ne sbatti i coglioni del coronavirus, mi sembra di capire, o no? Io me ne sbatto i coglioni perché praticamente tutti i tamponi che ho fatto sono sempre risultato negativo e quindi sarò immune con tutti i cazzi che ho preso. Cioè tu dici che sarà alla fine sarai immune, alla fine pensi di essere immune, cioè l'altra di voi non è che fate, cioè le distanze non esistono, ma figura. No, le distanze non si stanno, perché comunque sia, una volta che tu stai dentro il locale e prendi un cazzo di qua, un cazzo di là, ti metti ma tu a scopare. Sei più attivo o passivo? Allora, io sono versatile, però tanto lo metto in culo quanto lo do, cioè quando lo prendo. Poi, quindi... tutte e due le cose insieme puoi fare. Vabbè. Ciao amico mio, viva Madrid, viva la Spagna, ciao, viva la libertà, ciao. C'è anche il legionario, che vuole il legionario pure stasera? Manca, che vuole nessuno il legionario? Proprio, solo non si vedono i due unicorni. Dimmi, legionario. Allora, a posto di Gianfranco, posso salire sul ring io con la palla di Lardo di Gottardo, che l'altra sera mi ha insultato in diretta. Vediamo se ha il coraggio di ripeterlo di fronte a me. Non credo che voglia sfidare il legionario. Ma non credo di averlo insultato poi, tra l'altro, legionario. Pure. Ha detto un coglione, tipo. Questa è una descrizione. Coglione è evidente. Con descrizione. È evidente, è un appellativo no, giustificato. Una cosa evidente è se è una palla di lardo. Sì. Ora, però voglio dire, legionario, qual è il punto? Vuoi sfidare a che cosa? Perché tu sei uno, insomma, che ha usato le armi, ma a sì, box. A box. Quanti anni ha il legionario? Scusi, ne avrà 65. Ecco, no, io non picchio i vecchi, sa? Io non, vecchi. Non salirò mai su un ring con un vecchio. La facciamo più interessante. Vecchio. Senza sì. guantoni, a mani nude. No, figurati, mani nude ci si spacca le nocche, figurati. E tu chiedi scusa, ti stendo subito come una pelle di leopardo. Mamma mia, che paura, ma sai che sono terrorizzato da questa evenienza, sai? Mi sente proprio che sono terrorizzato? Puoi sfidare dietro il microfono quel ma cosa si fa sveglio? Ma uno di 65 anni, cosa sì, si fa sveglio alle 20:41? Cioè, dovrebbe essere già a letto con la tisana. Ho appena finito di allenarmi con le mie ragazze. Ma allenare cosa? Avrà giocato a briscola al massimo. Signor Lucio dalla provincia di Messina, da Milazzo, il legionario. Il signor guardate che il legionario, non scherzate sul legionario perché la storia è vera. Ha ammazzato un sacco di gente. Ha ammazzato l'intelligenza, la prima cosa che ha ucciso è l'intelligenza. Quindi, migliaia di neuroni ha ucciso. Ciao Regina, ciao. Massimo da Genova. Ciao ragazzi, allora volevo dire due cose velocissime. Allora, primo, che Gottardo è ingriffato come pochi con la Daniela Martani, cioè è eccitato. No, guarda, ma non la toccherei neanche con una canna da pesca, glielo ho detto anche di persona. Ma dai, vedi, ma non vedi l'ora di sentirle, là, è parente anche, fa finta, la insulta, ma guarda, non direi proprio di no. Ma è palese, non credo che sia eccitato con la Martani. No, in alcun modo, la considero una squinternata. Ma va, è il modo per chi di fretta compra. Ma guarda, non mi conosci. Andiamo avanti, Massimo. Allora, la seconda, ragazzi, volevo dirvi solo questo, velocemente, queste cacche di mascherine che quando posso me la tolgo come fanno i furbi, ovvero... Mi dicono, guardate che il virus chissà che effetti avrà anche su chi lo fa asintomatico, non sappiamo, 20-30 anni che effetti potrà Massimo, avere. Massimo, non ho capito, di cosa vuoi parlare? Spiegami. Allora, delle mascherine che ultimamente fanno questo effetto. Qual è l'effetto? Qual è l'effetto che non cade? Giù questo coglione, dai, giù questo coglione. Chiusura della Zanzara con una ragazza che ha 20 anni, fa l'attrice porno non so da quanto tempo, si chiama Francesca Palma ed è toscana. Francesca, cioè, fa l'attrice porno da 2 anni al massimo. Aspetta, da quanti anni? Penso di sì. Le medie a fare Francesca, porno. Da quanti anni? Francesca, buonasera. Ma buonasera a tutti. Da quanto fai il porno? Ma io ho iniziato a luglio, quindi sono 6 mesi. Ah, da 6 mesi, hai 20 anni spaccati, 20 anni? 20 anni spaccati, il 2000. Sì, non solo i 20 anni spaccati se fa il porno. No, anche ovviamente anche altre anche cose. Anche il culo. Anche il culo, non c'è dubbio, lo vedi, risponde in maniera molto tranquilla. Guarda che non se non... Guarda che ha la lingua abbastanza lunga la signora Francesca, non ti preoccupare, in tutti i sensi. Allora, cara Francesca, cosa ti ha portato a soli 20 anni con questa voce così, quindi da piccina, a praticare illegal porno, dove fanno anche delle cose abbastanza hard, diciamo la verità, doppie anali, cosa cui ti sei sottoposta in piena libertà, mi sembra di capire, no? Sì, a me mi piace questo mestiere, questo è il mio sogno, dalle medie è stato il mio sogno. Cioè dalle medie volevi fare l'attrice porno? Sì, esatto. Ma come mai? Cosa c'è dietro? Cioè, fondamentalmente... Sognava i cazzi, quindi, questa signorina a 13-14 anni. Non lo so, immagino di sì. Che cos'è che ti attira di questo mondo, cara Francesca? Cioè, ma mi piace l'estremo, proprio mettermi me stessa in gioco, buttarmi lì su una scena e... essere scopata da tutti i maschi. Cioè, questo è il punto. Dunque, hai provato in questo caso da luglio, immagino, anche la famosa doppia anale, no? Immagino. Sì, esatto. Ecco, la doppia anale, c'è una teoria che qui abbiamo discusso qui alla Zanzara a lungo, no? Cioè, si chiama Francesca Palma, 20 anni, è di un paesino della costiera, diciamo, toscana. E qui abbiamo discusso nei mesi scorsi sulla doppia anale e sull'anale normale, cioè la doppia anale è più dolorosa dell'anale normale? Perché allora, qualcuno dice no, perché siccome non entrano tutti quanti insieme, entrano solamente una parte, per esatto. altri invece. Allora, tu di quale partito sei? Io, oddio, una bella domanda. Mi piacciono tutti e due i partiti. Cioè, dipende, dici? Dipende dalla situazione, da come è messo il pene, la grandezza, via. Dipende dalla grandezza, naturalmente. Dipende dalla grandezza. Cioè, può fare... Comunque, la singola anale è... Diciamo che penetra tutto, quindi tu lo senti molto. Sì, e invece la doppia? La doppia anale entra solo, diciamo, la parte... Una parte. La parte iniziale del pene e adesso no. Dunque, i due peni confliggono. Il fatto che i due peni confliggano dentro l'ampolla anale... Allargano. Senti, ma tu sei una di quelle che ti alleni per fare queste cose qua? Cioè... Io sì, mi sto allenando abbastanza. Ma come? In che modo? Che notizia. E come con ti alleni? Con i dildi. Con i dildi. Tanto con... gelo, mi metto lì. Ma tu hai un po' un'astinenza da pisello? Cioè, troppo. Cioè, hai bisogno di cazzo, diciamo la verità. Cioè, questo è il punto fondamentale. Cioè, sei praticamente, non dico la ninfomania che è una malattia, però siamo lì. Insomma, sei una che ha bisogno continuamente, o sbaglio? Oh, continuamente sì. Diciamo più o meno, dai. Ma senti una cosa, far aiutare? No, c'è un elemento incredibile che voglio adesso raccontare, che forse Francesca non vuole affrontare, ma io lo faccio affrontare lo stesso, perché in alcune scene si vede la presenza della madre. Della madre. Allora, cioè, che presenza è quella della madre? Ma è stata... Cioè, come mai era sul set? E diciamo, ovviamente, premettiamo una cosa: le due persone non è che si incrociano, diciamo, non si toccano. Praticamente abbiamo fatto, erano due scene diverse. Sì. Completamente io da una parte e lei da un'altra. Ecco, ma perché lei, perché lei ha voluto... E non vi siete toccati, ma perché lei è una cosa abbastanza strana, caro Parenzo, no? Che una madre... No, io credo che sia abominevole. Abominevole, credo. Cioè, ma credo che sia abominevole. Ma perché voleva fare delle scene, sì. Ma perché voleva partecipare anche la madre? Cioè, perché era tua madre... lo schema della maniglia: prima la madre e dopo la figlia. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma voglio capire perché tua madre, spiegami. Voleva fare la sua esperienza. Ma io lo trovo agghiacciante. Cioè, in che senso? È un po' vacca anche la madre, quindi insomma, potremmo dire senza tema di essere querelati. Lei considera sua madre un po' vacca? Ora, proprio vacca, così grezza. Ma diciamo che anche lei piace il pisello, come ma perché tua madre ti ha seguito, diciamo, ti ha seguito in questa avventura, diciamo, a Praga? Perché Praga, sì, esatto. Perché ti è venuta dietro, cioè, sul set? Spiegami. Ma c'è voglia di cazzo. Pure tua madre? Una roba incredibile. Ma quanti anni ha tua madre, scusami? Mia madre, posso dirlo? Sì, certo. Cioè, 55. Tu 20, tu che? A 55, tua madre. A 55. Però lei fa parte di un'altra categoria, non segue me. Ma sempre scene porno ha girato. Ce n'è una che ho visto in cui ci sei te e lei, che non vi toccate, per carità. Esatto, non possiamo toccarci, non possiamo fare però nulla. Te e lei girate una stessa scena, cioè vi guardate, tu vedi tua madre e lei vede te. Diciamo, sì, io ero imbarazzata totalmente, io ero molto agitata, imbarazzata di tua madre. Che mi tocca fare? Che ti tocca fare, nel senso che ti tocca sopportare, dici? Esatto, anche nel Fortnite, basta. Oh, beh, incredibile. Anche questo devo dire, Parenzo, che sconvolge anche me questa cosa qua, diciamo, la presenza di una madre sul set che fa le stesse cose. Io lo trovo incredibile, lo trovo pazzesco, figuriamoci, una roba agghiacciante, non ho parole, agghiacciante. Comunque, se vi piace così. Ma tua madre la vuole finire o vuole continuare? Ma io non lo so ancora cosa vuole fare lei, però se vuole continuare lei ha le sue categorie e io ho le mie categorie, lei le categorie MILF e io la categoria teenager e niente. Capito, ci sono due categorie, devi capire, Gottardo, anche esatto. Tu non lo sai, teenager è come MILF. Una boss, no? Uno è un welter e l'altro è un medio massimo, quindi non si incrociano. Sì, esatto. Non sai, ma suo padre in tutto ciò. Ecco, appunto, tuo padre come l'ha presa? Mio padre, lasciamo perdere. È furibondo? Insomma, non è che stai molto contento, però. Ma è capibile, però. È capibile, credo, no? Credo sia capibile. Che persona antica quest'uomo dell'800, piccolo, che non è contento. Moderna. Ma vivete tutti e tre insieme a casa? Ma sarà scappato? Sì, sì, sì, sì, no, non è scappato, è lì ancora. Nonostante ciò, queste scene le ha viste o non le ha viste queste scene che avete girato? Poveretto, ma già c'ha un dolore pazzesco, che c'ha la moglie, la figlia. Ma secondo te le ha viste queste scene che avete girato o no? No, no, non le ha neanche viste. Ma ti credo, ma che roba è vedere le scene della figlia? Ma non è strano il scusi, signora, signorina, cara, non la voglio aggredire, ma non è strano suo padre? Siete due matte, lei e la sua simpaticissima mamma. Chiedo scusa, ma adesso non fate passare me, cioè, per un bigotto. Quello normale è il padre, dici? Quello normale, unico, poverino di quella famiglia è il padre. Salvate il soldato Ryan, è l'unico normale della famiglia. Vabbè, comunque ragazzi, si stupisce, lei era il suo sogno. Non hai mai visto il film della figlia? No, non l'ho mai visto. Perché non si tratta di un film di Stanley Kubrick o anche di un B-movie o di un ottimo film del nostro amico Ruffini, del nostro amico regista e comico Paolo Ruffini. No, non è un film di Ruffini, no, è un film dove c'è la figlia e la mamma che fanno un porno, quindi il padre è non solo giustificato, io mi sarei... Ma alla fine tua madre si è divertita o no? Ah, mia madre si è divertita, sì. Ma che bella famiglia. Anch'io. E anche tu ti sei divertita. Grazie, vi devo dire. Italiano, non si è divertito il padre. Avanti tutta, un abbraccio, basta essere felici. Sei felice tu, cara Francesca? Sei felice? Felicissima, felicissima nel mio traguardo. Oh, benissimo. Felicissima pure tua madre. Come si chiama il nome di tua madre? Com'è il nome di tua madre? Di nome, sono cognome, nome. Come si chiama? Ti può dire? Sì, tutto. Posso dirlo? Marzia, benissimo. Figlia Francesca, madre Marzia, vogliono fare il porno. E che male c'è, ragazzi? È un caso unico, bisogna vedere. Vabbè, ma siamo separate, nel senso. Certo, siete separate, assolutamente. Cambia tutto, allora. Certo, cambia tutto, sì. Dai. Solo qui alla Zanzara. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, con le lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.